tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani. Tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Se Berlusconi il 30 di luglio è condannato alla galera, cioè è condannato nel terzo grado di giudizio, noi non è che dobbiamo farci dire da Silvio Berlusconi cosa fare. Non credo che i 10, 12, 15 milioni di elettori di Silvio Berlusconi stanno a pettinare le bambole. Lei cosa farebbe? Con la democrazia che non c'è più. Oh, come mi piace l'espressione pettinare le bambole. Non staremo qui a pettinare le bambole se Berlusconi verrà condannato, anzi gli elettori non staranno qui a pettinare le bambole. E cosa faranno? Brunetta, Brunetta. Eccolo, eccolo che torna, signor Brunetta, signor Brunetta, eh. Forse non ci siamo capiti. Per il governo non c'è alcuna ripercussione, ma la parola dovrà tornare al popolo sovrano. Quindi si tornerebbe alle urne, secondo lei? Esattamente. Di fronte a una ferita del genere, il problema non è il governo. Il problema non è l'IMU, l'IVA, il problema è la democrazia nel nostro paese. Quindi la linea dura, però andare... Assolutamente, la linea democratica, altro che linea dura. Però chi se ne frega, ancora mancano pochi giorni al 30 luglio, poi noi non saremo in onda, per cui di che stiamo parlando? Che ce ne frega a noi? Non saremo in onda. Sarà uno speciale della zanzara, no, lunghissimo. Scordatelo, scordatelo. Per raccontare questa vergognosa sentenza nei confronti del cavaliere. No, no, scordatelo, scordatelo. Non ci sarà nessuno speciale, nulla di molto bene, nulla. Molto venerdì molto chiudiamo, bene. Chiudiamo i molto battenti. Bene. Chiudiamo Barak e Burattini. Chiudiamo Barak la Claire, chiudiamo il la circo, Claire. Il circo per l'estate chiude, chiude, via il tendone, via i pagliacci, via Razzi, via Scilipotti, via Sant'Anchè. Ma tu sei rimasto indietro, sei rimasto indietro. Scilipotti non viene da un anno e mezzo alla zanzara. Buon anno, però c'è buon anno. Aspetta, aspetta. Ecco, good buon anno. S. Il tuo good amico Good S. Com'è che lo chiami Good S? Buon anno. Buon anno, perché lui no, perché veramente se gli ascoltatori della zanzara vanno su internet e digitano on buon anno, sì, buon anno, lo trovano. Gianluca buon anno, no, ti dice forse cercare buon adesso anno. Adesso parla dei dipendenti pubblici, senti, li mettevo in castigo vicino a me. È uno di quelli, ma è vero che prendeva i dipendenti che trovava un po' fannulloni, li metteva a fianco a sé in ufficio in castigo, adesso stai lì seduto. Ho fatto anche quello. Spostavo le macchine del caffè. C'era la macchinetta del caffè nel municipio di Varallo e c'era sempre un crocchio di impiegati, sì, che si trovavano lì in 4, 5, 6. Io dicevo sempre, ma se uno arriva in ufficio, come diceva prima Forchiede, non trova nessuno, cioè almeno organizzati. E allora una volta, due, tre non l'hanno fatto, ho preso la macchina del caffè e l'ho messa nel mio ufficio. Risultato, crollo delle vendite del 50% del consumo del caffè. Gli uffici funzionavano tutti bene, infatti poi ho preso l'80% dei voti nella volta successiva. Beh, insomma, spostare la macchinetta del caffè vicino all'ufficio può portare, secondo Good Ass, dei vantaggi, dei vantaggi. Ogni tanto ci vogliono anche delle bastonate. Ma tu hai letto la biografia di questo Buonanno? No, vabbè, lasciamo perdere Buonanno adesso, dai, su. Ma l'ho letta per caso adesso. Ma non mi interessa, Wikipedia. Non mi interessa, è amico mio Buonanno, non lo trattare male, tra l'altro. Ma no, ma sai che il padre era il nonno di origine pugliese, attore girovago e spalla di Ettore Petrolini. Beh, ma cioè, si vede. No, al nonno, ma è quella cosa, adesso capisco tutto del nipote. E poi si è iscritto a 16 anni al movimento sociale affascinato da Giorgio Almirante. Questo spiega tutto. Ma che spiega? Che spiega? Senti questa questo cosa qui. Spiega, senti tutto. Poi ho riportato giù la macchinetta, adesso funziona bene. Al massimo ci vanno in due, prendono il loro caffè. Se lo vabbè, ma lei è di quelli che dice vanno rieducati. Vanno rieducati. Ma ci mancherebbe altro. Ho capito, ma mica sono degli animali. Cioè ma, sono... ma non è che sono degli animali. Però ogni tanto, se non gli si dà, tra virgolette, una bastonata, non capisce niente nessuno. Sentite questa del 5 Stelle in aula contro Esposito, il nostro amico senatore del PD contro i violenti notav, non contro i notav, contro i violenti notav, che è una cosa un po' diversa. Esposito un vile, questa qua si chiama Moronese, non so, una cosa del genere. Il senatore Esposito rappresenta con le sue parole la concretizzazione dinanzi ai nostri occhi e a quelli dei cittadini della manifestazione più insidiosa della violenza, intesa come fenomeno culturale, poiché in modo malcelato il messaggio che ci viene offerto è terribile nella sua viltà. Secondo Esposito, quindi, in presenza di un'opinione di dissonanza è illegittima una reazione violenta, ancor più se l'opinione proviene da una donna. Allora la risposta deve essere muscolare e maschilista. Ma che cazzo c'entra il maschilismo e le donne, eccetera? Moronese, sveglia! Sì, effettivamente. Il maschilismo, che c'entra il maschilismo? C'è gente fuori di testa in Parlamento che dice delle cose assurde, assurde. Effettivamente, effettivamente. Qualcuno ce le ha mandate queste persone. Taormina, Taormina, il mitico Taormina. Beh. Ecco, questo è scandalo, questo volevo dire, questo mi ha veramente comunque fatto sentire. Ma è il numero uno, è il numero uno. Ma scusa, uno che ha il coraggio oggi di dire. Va bene, va bene, posso dire che mi ha disgustato? Ma cosa ti ha disgustato? Il fatto che abbia detto che Mussolini, per esempio, è un gigante. È un gigante rispetto a Letta. A me uno che dice apertamente quello che pensa mi fa quasi simpatia. Mi ha disgustato. Vabbè, mi dispiace, pazienza, perché lo conosco da tanti anni, pazienza. Ma questa cosa mi ha disgustato. Non ho preoccupazione a dire che di Mussolini, a parte la solita questione della guerra, ho un buon concetto. Ha un buon concetto, una grande, certo. Un grande statista è stato. Beh, non c'è un bel dubbio rispetto a questi pecorai con i quali ci confrontiamo oggi. Credo che proprio non ci sia dubbio. Vuole mettere Mussolini con Letta, scusi. E poi dice Priebke, una persona gentile, cortese, colta, andrà, ecco, appunto, andrà al compleanno ai 100 anni di Priebke. Ma com'è di persona Priebke? Una persona gentile, carina, sì, cortese? Molto, questo va detto con molta chiarezza, insomma, una persona gentile, cortese, sì. Molto colta. L'avvocato Carlo Taormina, certo molto che sono molto colta e gentile. Ma come si fa a dire gentile di un criminale nazista? Beh, poi gentile. Il lapidario, cioè, vuol dire che quando sì. Uno, scusami, no, questo me lo devi far dire perché sono amicaccio. Dai, cosa dai. Vuol dire che quando uno bussa così dice chi è? Herr Priebke? Dice avanti, prego, dice avanti, perché dice willkommen quando uno bussa? Allora... Dice sono willkommen solo perché dice gentile. Ma come si fa a dire che un criminale nazista? Ma perché uno non può essere gentile, carino, non può essere carino. Ma non può essere colto, non può essere colto. Quando compie questo? Lunedì, credo, lunedì fa 100 anni. Beh, sì. Speriamo che non ci arrivi, guarda. Tra l'altro questo è il lapidario giudizio del professore avvocato. Questo è il mio augurio. Vabbè, abbiamo capito, tu vuoi Priebke morto. Tu vuoi Priebke morto, ammettilo. Guarda, questo è il mio augurio, guarda. Vuoi Priebke morto, vuoi Priebke al cimitero. Ma lo devi dire chiaramente, lo devi dire esplicitamente. Ha vissuto fin troppo rispetto alla morte che ha dato, ha vissuto. Vabbè, comunque, senti il lapidario giudizio del professore. Ha vissuto fin troppo. Abbiamo capito, il lapidario giudizio del professore avvocato Carlo Taormina sui froci. Lo dico chiaramente, certo non ci saranno omosessuali alla festa di Priebke, su questo non c'è dubbio. Ah, guardi, su questo punto c'è una posizione assolutamente unanime. Tutto quello che è omosessualità è criminale, se non per noi. Ma per noi chi? Tutto quello che è omosessualità dice è criminale. Delle cose terribili. Va bene, siamo qui la Zanzara 800240024 con il senatore Sergio Divina della Lega Nord. Buonasera, senatore. Buonasera Crociani. Come andiamo, caro senatore? Non benissimo, bloccati a letto con la schiena messa male. Però con la schiena messa male, ma lei è leghista, non dovrebbe soffrire di queste cose, scusi. Dovrebbe... Ahimè, non c'è l'immunità per questo. Non c'è l'immunità da leghista? Beh, lei dovrebbe avere l'immunità, un fisico... L'immunità alla discopatia. Un fisico roccioso, possente, sempre lì a battagliare per il nord, per la separazione, per l'indipendenza. Torneremo in pista presto. Adesso un po' di cure, un po' di iniezioni ancora. Iniezioni sì, alla sì. Schiena. Ma dov'è? Proprio steso sul letto lei, professor Divina? Ahimè sì. Ah, non steso. Professore, tranquillo. Vabbè, maestro, si può dire. Professore tesoro del nord. Senta, Divina, io voglio dire una cosa. Lei ha proposto una roba pazzesca, cioè... Per addirittura dare degli sconti, sconti di pena per chi pedala energia, che vuol dire? Ma, dunque, inquadriamo la questione, se no non ci capiamo nulla. Il Senato sta discutendo dello svuota carceri, che più che chiamarlo svuota carceri possiamo definirlo riempi città di delinquenti, perché... non saremo in grado poi di controllare tutte le persone che saranno rilasciate. Capito Parenzo, perché... svuota carceri no, ma svuota delinquenti, tu sei d'accordo? No, riempi città, tutti sì. Quelli che saranno ammessi ai domiciliari sostanzialmente sì. Saranno liberi di circolare e di fare ciò che credono. Verranno tu che sei a favore, Parenzo, tutti... tu che sei a favore di tutti i provvedimenti di clemenza, l'indulto, l'amnistia, guarda, eccetera, eccetera. Tu che sei d'accordo sì. Su tutto questo? No, non sono assolutamente l'unico. Le persone che hanno residui di pena meno di 4 anni. Vabbè, insomma, in tutto questo lei che dice? Ma dunque, perché dare questo sconto generalizzato? Cioè no, ma al di là di questo, che cos'è questo? Allora, no, io mi sono messo un po' a scartabellare, a vedere cosa succede in giro per il mondo. Mi è interessato molto quello che sta succedendo in Brasile, in uno stato, nel Minas Gerais. Lì hanno allestito nelle carceri delle sale dove chi volontariamente si sottopone, ci sono delle biciclette abbinate a dei rotori, abbinate a dei generatori. Sì. E chi si sottopone volontariamente a questo diciamo lavoro che è produttivo, produce energia elettrica per il carro. Cioè uno capito, comincia hanno a pedalare. Degli sconti di pena, lì hanno introdotto una specie di 3x1, 3 giorni di pedalato, uno sconto di pena. Vabbè, però scusi, siamo anche in Brasile. Ma sai che questa roba qui, è stranamente intelligente. Perché stranamente? Vuoi dire che Divino è cretino? Non ho capito. No, non è Divino, non è mai una cosa personale. È una cosa però stranamente intelligente perché la Lega, cioè il genere... No, perché stai dicendo che le proposte della Lega sono tutte proposte ridicole. No, ho detto che no, ma hai detto ma vai fino in fondo, stranamente intelligente perché viene dalla Lega. È apparentemente buffonesca perché tu l'hai buttata come al solito qui che non ne capisci in questo caso la genialità. Mi spiace doverlo riconoscere, sì, ma si riaccredita Parenzo con questo giudizio. Anche perché è un'operazione questa che ha un triangolo di benefici. Allora, ne beneficia la società che avrà un po' di energia elettrica gratuita, gli amministratori... Ma è impraticabile, dai, su, ma non diciamo cose assurde, non si possono avere sconti di pena perché uno va sulle biciclette, ma lo farebbero tutti, allora, è una specie di lavori forzati, dai. Ma non è un lavoro forzato, ma il beneficio starà anche da parte del carcerato, che pedalare tonifica... Ho capito, ma lei si immagina le carceri, a parte che è una proposta che viene da un carcere brasiliano... Sono belli, robusti, pronti per una nuova vita, no? E servirà anche a loro. Ho sentito anche un aspetto psicologico interessante. Chi cura questi perché tornano ritornano alla vita normale non dai netti perché si sentono anche che sono stati utili alla società collaborativa però mi scusi anche questo lato psicologico aiuta il detenuto dai, però mi scusi è un beneficio tripartito perché non provare anche in Italia punto di domanda ma l'hanno fatto in una prigione in una sperduta prodotta. Prigione brasiliana dai su però il risultato è stato così interessante favorevole ma ci sarebbero tutti quanti a pedalare per uscire dalla galera pensano di estenderlo a tutto lo Stato, per cui è una cosa che lì è uno sperimento. Vabbè, Parenzo, che dici? Non ho capito. No, dico a Divina, meno male che non ha completato la proposta dicendo però l'energia prodotta, pedalata, verrà distribuita solo al nord, al sud si fottano. Lì sarebbe stato, come dire, allora... Più coerente, dici tu, no? Più coerente. Bisogna fare delle convenzioni con i gestori elettrici locali e le amministrazioni locali, dove si trovano gli istituti di pena, il beneficio sarà locale, per forza. Non è sbagliato, è un po' strana questa cosa delle biciclette nelle carceri. Dai, su! Ma di che parliamo? Traffico, torniamo subito. La zanzara. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando quel giorno scivola via. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. La cruda verità, le zanzare di casa. L'avvocato professore Carlo Taormina annuncia al compleanno di Prip che ci saranno anche dei sacerdoti, dei religiosi. Chi saranno? Taormina, lei andrà alla festa dei 100 anni? Ma guardi, sono stato invitato, ho dato la mia disponibilità, ma non ho ancora deciso. Ci sono anche dei sacerdoti che sono, che partecipano a questa festa, che in qualche modo la benedicono. Chi saranno i sacerdoti che parteciperanno alla festa dei 100 anni di Pripke? E poi, caro Parenzo, arrenditi, ognuno fa la festa che vuole. Se questo vuole festeggiare a casa sua i 100 anni, festeggerà i 100 anni con gli amici, con la gente che ha dell'ammirazione per lui, con i suoi conoscenti, con i suoi parenti, sì, sorridente, tranquillo, con le candeline. Fatene una ragione. Peccato che lui la festa l'ha fatta del soltanto 6 milioni di persone. Cioè, ma che 6 milioni? Lo so che ma che 6 milioni? Ma no, ma non è quello. 6 milioni di persone gli ha fatto la festa lui. E quindi qualcuno gliela dovrebbe fare un giorno o l'altro la festa, visto che non ho, lo Stato democratico nel quale siamo, vabbè, lo fa giustamente, perché noi siamo. No, va bene un cazzo. Perché noi siamo. L'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto. Il senatore Esposito. Il senatore. Divina, ma che è una divina che vuole mettere le biciclette delle carceri, dai, su, forza. Divina, divina, perché non invitate la Chienga a una festa della Lega? L'altro giorno è stata praticamente esaltata, hanno fatto dei cori alla festa dell'Unità. No, ma noi abbiamo una paura terribile, tornando alla galera, perché in galera ci fiderà soltanto chi parla oggi, perché chi stupro, violenta, truffa, eccetera, sarà subito messo in libertà. Vabbè, adesso questa generalizzazione. Tu basta che nei confronti di una persona, diciamo, non normale, perché non l'offesa normale è ammessa ai normali, agli anormali non sono ammessi. Ma perché i gay sono anormali, secondo lei? Ma no, tutto ciò che non è normalità, tu puoi dare dello psiconano a Berlusconi, del nano tascabile a Brunetta, pitonessa alla Sant'Anché, puoi anche incendiare bandiere americane, minacciare di morte. Però non puoi dare dell'anormale a un gay, dice lei. Puoi dire di tutto sul Papa, ma non esporre una vignetta che offenda l'Islam, no? Scusi, una divina, però secondo lei diverso, una parola contro il diverso, di sesso, di razza, di religione, è subito bollata. Scusi, divina, secondo lei sono anormali i gay? Ma non è questione di normalità, no, ma la normalità è l'eterosessualità. Dunque, la normalità sono anormali, se lei dice che è normale. È una, non so se chiamarla devianza, ma devianza. Comunque è un'inclinazione sessuale che non è la normalità, per fortuna, non è la normalità. Beh, sarebbe, però, che succederebbe se ci fosse un mondo pieno di gay, secondo lei, signor Divina? No, succederebbe niente, no? Il problema è che noi dovremmo far capire che il mondo va avanti, se gli uomini sposano donne, fanno figli con le donne. Questa e altrimenti? Normalità. Ecco. Altrimenti la cosa è diversa, le persone possono stare con chi vogliono, con amici, con amiche, eccetera, ma quella non è una famiglia, non darà mai vita a un qualche cosa, non potranno procreare, per cui è anche un po' una malattia, secondo lei? Ma non è questione di malattia, non saprei, un'inclinazione, una devianza sessuale, una devianza. Comunque da rispettare, punto e basta, ma non da esaltare. E siamo diventati una società che va verso l'autocastrazione, qua. In che senso, scusi, l'autocastrazione? Puoi dire tutto ciò che vuoi delle persone, tranne che se la persona è, come ripeto, anormale. Tu vai allo stadio, arbitro cornuto è una roba normale, fai bu a un giocatore di colore e diventa già una cosa da scandalo pubblico. Cioè non è razzismo fare bu a un giocatore di colore, dice lei. Ma le persone non fanno tanti ragionamenti sottili, so. E perché dire arbitro cornuto non è una discriminazione? Beh, è un po' diverso, è un po'. Sì, no, ma certo. Divina? Sì, di Parenzo, di più. Professor Divina, maestro Divina, maestro Divina, è un po' diverso se c'è un giocatore di colore e fagli verso della scimmia. È un po' diverso, professor mio Divina, disteso in quel letto. Se non lo capisce, è gravissimo se non lo capisce. Scusi, professor, se lei vede professor Parenzo, ascolta un po'. Signor Divina, lei ha figli? Persona, lei ha figli, una Divina? Che abita molto vicino a me, molto vicino a me, ha detto una cosa nei confronti della ministra Chienge e sarà processato per direttissima. Ma chi è questo? Io dico a una persona, no, torna al tuo paese, è offensivo, probabilmente lo dico a qualsiasi persona, no. Se dico a Montanaro, torna nei tuoi boschi, è offensivo, probabilmente no. se uno dice alla Kieng torna nella foresta, che poi sono i suoi boschi d'origine, questo sì, è diventato reato. Ma dico, siamo diventati dunque, pazzi. Per lei, per la lei... stessa, la stessa parola detta a una persona, sì, ma ho capito, un'altra scaturisce, ma io posso, posso anche essere sanzioni molto diverse. Guardi, caro Divina, sul fatto dei processi sono d'accordo con lei, però mi dica la verità, anche lei vorrebbe che tornasse nei boschi? Io non voglio niente, cioè, ma mi dica la verità, Divina, su, Divina, per lei dovrebbe tornare in Congo, strano, nei boschi, io trovo su. Molto strano che un paese ricco come il nostro abbia dovuto dare questo segnale per far finta, no, per coprire qualche impudicizia, far vedere che insomma noi siamo i più aperti d'Europa. Sì, però, non avevamo tante brave ragazze in grado di gestire la coerenza, però per lei dovrebbe tornare in Congo nella giungla, su, diciamo la verità. Divina. Ma no, ma resti a fare quello che sa fare, una buona chirurga, una buona oculista, faccia quello, insomma. Ma lei sposerebbe mai una persona di colore? Come, come? Lei sposerebbe mai una persona di colore, Divina? Ma perché no? Io non avrei niente, no, ma è una domanda, persona, è una domanda. Bella persona pulita, onesta, che lavora. Che io ricordo, Divina, che ricordo che lei propose una volta dei vagoni separati per gli extracomunitari, a no, suo no, tempo. Vedo che lei è molto informato, purtroppo però legge quelle cose che vengono scritte, perché io volevo soltanto difendere dei poveri italiani che salendo a Verona e non trovavano posto, ed erano dei pendolari che venivano a lavorare in Trentino, mi chiesero di fare qualcosa. Chiesi di far controlli alla polizia forestale, i quali dissero che non potevano far niente perché a Verona questo treno era già pieno, bivaccavano sostanzialmente. Dei, vabbè, lei voleva vagoni appositi per gli extracomunitari? No, ma se e non pagavano il biglietto. Vabbè, allora, d'accordo. Se il povero lavoratore italiano che paga l'abbonamento deve fare anche il viaggio in piedi, a questo punto dividiamo le carrozze e facciamo sì che anche gli italiani che pagano il biglietto possano sedersi. Ecco. E da lì poi si è giocato molto. Ma scusi, ma sono più sporchi perché gli extracomunitari sono più sporchi degli italiani? Ma no, perché nessuno riesce a farli rispettare. Questi mettevano masserizze, scarpe per terra, i piedi sui sedili, nessuno si sedeva lì di fronte. Scusi, a proposito degli omosessuali. Anche gli italiani di mettere i piedi sui sedili, ma perché dobbiamo stare a sedersi in luoghi comuni? Anche gli italiani padanissimi di Bergamo. Perfetto, basta che la polizia, diciamo, ferroviaria, perché a rispettare anche un po' di decoro. Mi pare che adesso, che da un po' di tempo a questa parte, ci sia un po' di polizia, un po' di poliziotti anche sui treni. Mi pare che sui treni ci sia un po' di vabbè, decoro. Vabbè, Divina, sento una cosa. Torniamo alla questione dei gay di cui si parla in questi giorni. Lei ha detto dei reati d'opinione, eccetera. Ma se lei ha figli, Divina? Sì, uno e uno. Un figlio e una figlia. Un figlio e una figlia. Quanti anni hanno? 22 e 28. 22 e 28. Eterosessuali? Per fortuna. Ma se lei, appunto, se fossero omosessuali, che reazione avrebbe? Li porterebbe da qualcuno a farli vedere? Ma cosa vuoi che le dica? Non lo so. Non sarei la persona più felice del mondo, dovrei accettare quello che. Ma cercherebbe di farli curare, di farli. No, ma non c'è da curare, cioè quell'inclinazione lì è una persona che ha attrazione verso. Che io non so come nasce all'interno la psicologia e come la formazione di una persona, sì, come si sviluppa. Probabilmente in un corpo di uomo o di donna si sviluppano tendenze, inclinazioni che non sono corrispondenti al cliché dell'uomo e della donna. Alla natura. Mi spiacerebbe molto, però un figlio è un figlio e te lo tieni in qualsiasi modo. Ma quello non c'è dubbio. Forse anche un delinquente e te lo tieni anche delinquente. Provi a fargli capire i comportamenti corretti e meno, se avessi anche un figlio deficiente ti tieni pure il figlio deficiente. Diciamo che è un po' diverso, diciamo, però. Beh, sì, però comunque è un po' diverso, diciamo, però, avere un diciamo che in ogni famiglia abbiamo un fratello un po' cretino e ce lo teniamo sulle spalle. Buonanotte. Beh, insomma, c'è sempre qualche disgrazia, dice lei, no? In ogni famiglia ha le sue. C'è dubbio. Non è una disgrazia, però, scusa, cioè, una cosa un po' diversa, comunque, per carità. Dovevamo parlare di biciclette che fanno. Beh, le biciclette, caro Divina, però le biciclette, ormai che dobbiamo dire? Propone le biciclette. Biciclette, c'è da pedalare prima di produrre l'energia, tra l'altro, no? Ha voglia a pedalare, giusto? E sì, poi in Germania lo fanno. Voi avete una radio che si può mettere in collegamento con le persone. Le persone che ho sentito io prima di presentare questa proposta mi sembravano tutte entusiaste. Sì. Fai pedalare a queste persone, fai produrre qualcosa per la società, dagli in cambio un beneficio. Ma è evidente. Ho trovato solo pareri favorevoli. Parenzo, ma è evidente. Ma il Bundestag è scaldato d'inverno solo da delinquenti comuni. che è circondato, ci sono nei sotterranei del Bundestag, ogni volta ci sono questi criminali che pedalano e ci sono dei nani che li frustano in Germania. No, ma non sono mica obbligati, sarebbe una decisione volontaria, perché tu pratica. Allora, voi sapete cos'è lo, diciamo... Scusi Divina, però dobbiamo chiudere, le voglio far dire, sì. Ma nella Lega, secondo lei, ci sono omosessuali? Sono curioso di questa cosa io, perché... Non lo so, ma io volevo finire... No, ma non lo sa, ci sarà... La pena, a volte la pena è tradotta in pena pecuniaria, viene... Sì. Allora, certe pene possono essere tramutate in pene pecuniarie, al posto di scontare giorni di prigione, pago... Ecco, in quel caso lì, al posto di scontare giorni, uno decide di pagare in che forma produco energia. Lo decide lui. Ma non è stupido questo? No, assolutamente. Divina, non è assolutamente stupido. Noi ironizziamo perché tanto non si farà mai, per carità. Poi... pedalare per uscire dal carcere, su, ma di che parliamo? Divina, scusi un attimo, ma ci sono omosessuali nella Lega, sì o no? Io penso di no, ma io non ne conosco, però dopodiché... Sarebbe una disgrazia? Ma no, ma non stiamo mica a fare l'analisi del sangue, no? Persone che Lega e neanche compilare moduli. No, dichiarandosi. Giornale radio, bracci, pedali anche lei, pedali per guarire. Pedali per guarire. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a ti zanzara mi son messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli un son twist, e balli un son twist. La zanzara twist. Aldo Busi show alla zanzara. Ieri sera facciamo un piccolo riassunto del Busi pensiero, iniziando dal fatto che ci ha detto: pensavo a voi e sono andato di corpo. E ne mi sono appena scaricato, sono molto contento perché... Cosa vuol dire? Sì, per scaricato, nel senso che finalmente mi sono liberato momentaneamente della schizzi. Sarà stata la gioia nella previsione di parlare con voi. Ho un problema, un megacolon, ho un metro e mezzo in più di intestino, quindi ho un metabolismo molto lento. Sì. Il pensiero, la gioia, il tripudio di avere un appuntamento telefonico con voi ha sortito un effetto... Ah, in quel senso, avevo capito bene... Bisogna spiegare la gonorrea nelle scuole. Nelle scuole, nelle scuole si deve insegnare dermatologia, ma che sappia almeno che cos'è la mononucleosi, che cos'è una gonorrea, che cos'è l'HIV positivo, che cosa rischia ad avere un rapporto non protetto, uno stato interessante, i rischi dell'aborto. Non sanno nulla. È un paese questo che è impestato. Ma sì, perché non abbiamo... Che sono impestati. Tra i giovani di oggi c'è una pandemia di creste di gallo. C'è una pandemia. C'è una pandemia di creste di gallo, no? Ma è una cosa da pazzi. Lo so, perché non usano niente. Ma non usano, lo usano male o non sanno che cosa è. Pelata la gioventù. Oh, poi la sua teoria sulla pedofilia. I ragazzi vanno protetti, i bambini vanno protetti, però fino a 14 anni. Da 14 anni in poi, liberi tutti. Io sono del parere che c'è la vittima totale, sì, che è il bambino, che è sacro, certo, che è inviolabile, che sì, è intangibile. Sì. Questo è un crimine totale perché questa è una vittima totale. Dal primo giorno di vita ai 14 anni, sì, ma dopo i 14 anni bisogna finirla. Spegni la luce, passa dalla TV. Ti ha beccato. Poi la sua teoria sul processo Berlusconi, una farsa, non sono prostitute le ragazze. Beh, sono Busi controcorrente su questo, eh. E Ruby, anche se minorenne, non si può parlare di prostituzione minorile, è una cosa totalmente no. Da questo punto di vista, un processo farsa, un processo assurdo, sì, 50 udienze, sì, che saranno costate a noi contribuenti, non so, dica lei una cifra, 20 milioni? Sì, circa, 20 milioni. Ecco, questo. 20 milioni, ci sono cose ben più importanti. Un processo sessuofobico. La morale è questa, io non voglio che Al Capone finisca Sing Sing per un contenzioso con l'erario. Oh, siamo qui 800 24 00 24 TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Alla Camera fiducia sul decreto del fare, ma continua l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Slitta il finanziamento ai partiti, rischia la legge sull'omofobia. Napolitano, non blindo Letta, ma non ci sono alternative. Il voto facile è patologia italiana. Grasso, riforma della giustizia, ora non è priorità. A fondo di Letta contro gli evasori fiscali, tasse troppo alte perché non tutti le pagano. Chi porta i soldi fuori Italia non avrà più coperture. Il ministro Bonino, dall'ambasciatore kazako, condotta intrusiva inaccettabile. La replica di Astana, se sarà espulso reagiremo. I sindacati alla Fiat, rispetti la sentenza della consulta. Camusso, le rappresentanze le scelgono i lavoratori. Il Papa al santuario di Aparecida, di fronte a 500.000 persone, giovani, motore della società, e abbraccia un rabbino e un imam. Comincia male la stagione del calcio, cori razzisti al torneo team, il milanista Constant lascia il campo. Calcio scommesse, chiesti 4 anni per Mauri. Well now, little mosquito, there must be. Non capisco, caro David, tutte queste polemiche, perché il sindaco di Forte dei Marmi ha messo le barriere metalliche sul pontile della spiaggia, quella famosa di Forte dei Marmi, per evitare i bivacchi dei venditori ambulanti nelle ore più calde. Le polemiche, si poteva scegliere una situazione diversa. Il decoro delle città, il decoro dei posti è fondamentale. Ha fatto benissimo il sindaco di Forte dei Marmi a mettere quelle grate metalliche. No, le grate metalliche sotto il pontile, oppure no, David? Oppure no? Beh, immaginavo, ovviamente hai detto la tua stronzata del giorno. Perché? E questo non l'hai detto per puro spirito polemico, è la cosa drammatica che veramente mette in discussione la nostra amicizia e la tua totale assenza di umanità. Dovete tu e i ben pensanti ricchi e borghesi. Ma è del Partito Democratico il sindaco di Forte dei Marmi, eh? Dovete, ecco, da cosa c'entra? Ha fatto una stupidaggine. Ma quale stupidaggine? Quando sento la parola, certo, decoro, che fai? Metti mano alla pistola? Che fai? Dovete, voi ricchi, dovete cominciare a capire, voi, sì, ricchi, voi signorotti. Cominciamo a parlare. Io vengo dal popolo, dalla strada. Dal popolo, amico mio, tu dal popolo, non fammi parlare. Certo, guarda, non fammi parlare, certo, dei palazzi, che non fammi parlare perché non mi interessa entrare nel privato. Ma quali palazzi? Quali palazzi? Comunque, io non c'ho niente. Quali palazzi? Lascia stare. Vabbè, allora l'indirizzo dei palazzi. Ma quali palazzi? Non mi interessa. Non è questo il tema. Il problema è che dovete cominciare voi borghesi ad abituarvi al fatto che esiste la povertà, abituarvi al fatto che esistono delle persone, sì, che per vivere vendono delle borse e non ti infastidiscono se vengono lì a dire accendino dottore, accendino. Ma io infatti dottore non mi infastidisco per niente, a parte quando rompo i coglioni tutta la sera, ma quello dopo lì, un po' mi infastidisco. Capita anche a me come vengono a vendere ti le infastidisci anche tu. Ti infastidisci anche tu. Ma se un sindaco chiude, se un sindaco mette delle reti metalliche sotto un pontile per evitare che la gente bivacchi, per evitare che le persone bivacchino? Sbagliato, perché non ci sono bivacchi, sono persone che questi lavoratori che vengono ci lì sono a vendere bivacchi, accendini, ci sono bivacchi, persone bivaccano, si siedono e si riposano, no, dormono, bivaccano, pisciano, fanno tutto, no, pisciano niente, pisciano, tu, cagano, sei pisciano, sei tu che quando vai nel mare fai la pipì. Beh, certo, nel mare sì, certo, sei tu che lo hai fatto, sei tu che sei che quando vai nel mare a 47 anni fai, sì, la pipì nel mare, tu lo fai, non loro. Va tu, bene, Francesca da Varese, buonasera. Non gli immigrati. Buonasera. Buonasera, prego. Sì, allora, innanzitutto volevo dire che il sindaco di Forte dei Marmi è un uomo molto affascinante, che ho avuto modo di conoscere, beh, non ho parlato, l'ho semplicemente visto, sì, quando due anni fa, anzi tre anni fa, è stato premiato il vostro collega Ciccarelli per il graffio. Vabbè, al premio Satira. Non ce ne frega un cazzo di questa vicenda qua, di questo premio che ha ricevuto. No, ma di questo dettaglio, che lei conosce il sindaco di Forte dei Marmi, non ce ne frega niente. Lei conosce il sindaco. Ha ricevuto anche il piccolo cialtrone l'anno scorso. Sì, due piccoli cialtroni in realtà, no, non due, vero, giusto, due. Vabbè, vada su, veloce. No, è veloce, potrebbe essere l'ultimo intervento dopo 5 anni di fedele appassionata seguito della zanzara. Lei sta allungando i tempi, il brodo, esatto, il brodo. Vada, allora, no, stamattina seguivo Sarubbi, no, nei tweet da Open Camera. Vabbè. E a un certo punto ha twittato su Braga, visto che stiamo parlando dei leghisti, no? Ma non stiamo parlando. Parlava di Bragantini che dice, ha fatto un intervento, non è giusto che lo Stato paghi per ristrutturare tutte le scuole dei comuni spreconi. Sì. Senti chi parla, la Lega. Allora, vorrei ricordare, Urbi e Torbi, sì, i milioni che sono stati regalati alla famiglia Bossi per la scuola. Questa cosa è nota, è arcinota. Evidentemente Bragantini non ce la ricorda. Ha, no, detto la sua cosa antileghista. La ringrazio. Michele Bollina Dalla Spezia, la scuola bosina della moglie di Bossi. Benissimo. Michele Dalla Spezia, buonasera, arrivederci. Michele buonasera, Dalla Spezia. Buonasera. Dica. Io non so, 3 anni fa o 2 anni fa io ho parlato già con voi e continuo ad avere un dubbio amletico, ma Parenzo ci fa o ci è? Beh, a che proposito, scusi? No, a mille propositi, su ogni cosa di cui si parla, intanto è molto disinformato. La ma su la che cosa? Su che cosa? Su Mussolini. Io non sono un fascista, non ho mai votato a destra, ma non capire che Mussolini effettivamente è stato l'ultimo statista che ha fatto qualcosa in questo paese è inoppugnabile, basta andare per le città e vedere quello che ha fatto. Vabbè, Michele, lei va ricoverato subito, su. Vabbè, no, lei è un nostalgico. No, ma lei è un nostalgico del fascismo, vabbè, ma lei è un nostalgico, punto, va bene, ci può stare, è nostalgico, però non ci rompa le scatole con queste cose, dai. Ancora. Bisogna oggettivarle le cose, così, parlate così, non hanno senso, diciamo. Cioè, io oggi ho letto una sentenza, dico questa per ultima e poi a voi vi lascio la trasmissione. Sì, grazie. Sì. Ho visto una, no, puoi tornare nella tua spelonca. Ho letto una sentenza che niente meno è stato incriminato una persona che ha parlato male di uno di prima linea. No, lo so, senta, non mi interessa, Rinaldo dalla provincia di Latina, non me ne frega niente, Michele, su, basta, si sente pure male. Rinaldo? Oh, eccoti qua. Dica. Sì, eccomi. Cavolo, finalmente. Allora, prima di tutto volevo dire qualcosa per quel signore della Lega, sì, che ogni volta che parlano loro mi sembrano proprio assurdi quello che dicono. Vogliamo liberare un po' le carceri, benissimo, allora perché non facciamo magari delle colonie per i carcerati, non so, a portare il lavoro alla terra, come si sa anche in Romania fanno così, prendono i carcerati, sì, li pagano quello che serve, logicamente meno di quelli che pagherebbero, sì, e li portano a pulire le strade, lavorare la terra, per le cose utili alla società. Insegnano qualcosa anche a questi carcerati. Quando la gente non sa niente. Nelle carceri, già facciamo una puntata dedicata alle carceri, perché nelle carceri, sì, ma bisogna fare l'estensione, però Rinaldo, mi avete scocciato tutti e due, dove vuole arrivare? Rinaldo, no, dove vuole arrivare? Che è importante. Parenzo, stai zitto un attimo, Rinaldo. Voglio arrivare a dire che ci sono possibilità per le carceri di essere un attimo svuotate, è soltanto che in Italia si parla e non si fa mai niente di concreto. Va bene, fammi sentire, sì, ci sarebbero le possibilità. Fammi sentire Nicola da Rovigo, siate più concreti per favore, che mi avete già rotto le scatole stasera. Nicola da Rovigo, con tutte ste chiacchiere, sì, parole al vento, uno fa un intervento deciso, sicuro, ci sarebbero i modi per svuotare le carceri, eccetera. Dimmi cosa e non ti dilungare troppo, Nicola, avanti. Una bella riflessione. La riflessione la fai a casa tua, Nicola. Approfondita. Sì, falla a casa tua, va bene. Nicola. Non volevo chiedere a Parenzo se lui non ha mai avuto la voglia di salire su un interregionale o su un treno così. Ecco, io non ho mai avuto cosa? Poi mi dirà se gli viene voglia o no, essendo italiano, di chiedere dei vagoni dedicati a Italia. Nicola, non ho capito niente perché stasera si sente tutto male, per cui cominciamo da questa cosa qua. Nicola, mi dica che cosa vuole dire? Allora, l'intervento che ha fatto Parenzo prima. Sì. Che criticava quella proposta di dedicare dei vagoni non tanto agli italiani, ma a chi paga. Sì, vabbè, ma sono tutte stronzate. Uno sale sul treno e non succede niente la maggior parte delle volte, tranne su treni particolari. Ma tu hai mai preso un treno? Io l'ho preso centinaia di volte. Tutte che si cambiano in vagone. E vabbè, le devono prendere se non hanno pagato il biglietto e portarle giù. Se si cambiano sui treni o pisciano sui treni, ci sarà qualcuno che le sanzionerà. Se non li sanzionano, è peggio per loro. Cosa vuole che le dica? Io devo prendere tutti i giorni per andare a lavorare. Voglio un vagone. Si rivolga alla polizia, si rivolga alle ferrovie per sgomberare il vagone. Se non lo sgomberano, è colpa loro. Non mi rivolgo agli stronzi di Parenzo. Ma che c'entra Parenzo con i vagoni pieni di extracomunitari, scusa? Come? che c'entra Parenzo con i vagoni pieni di extracomunitari? Come lei non sa neanche le cose. Io tutte le, io prendo tutte le settimane. Sì, ma non c'è bisogno che lo specifichi. Su, dai, fai parlare Nicola, dai. Quando si parlava della proposta di legge del senatore della Lega, che aveva fatto questa proposta di istituire dei vagoni dedicati a chi paga l'abbonamento. Sì. Parenzo, intervenuto dicendo che sono stronzate. Non sono stronzate. Chi deve vivere, chi per vivere deve prendere un treno. Non si possono fare i vagoni separati, ha capito o no? Che è una cosa ridicola. Trae borsa, ma... torniamo tra un attimo. La zanzara. Zanzare. Dietro campagna e anche al mare, zanza, zanza, zanzare. Originalissima trovata, originalissima uscita del premier Enrico Letta. In Italia si pagano troppe tasse perché c'è l'evasione fiscale. E poi promette lotta dura agli evasori. Beh, una grande novità, no? Una grandissima novità. Detto, ma come al solito hai dato sempre la notizia un po' a metà. Ma che notizia a metà? Non c'è nessuna notizia a metà. Dire che in Italia si pagano troppe tasse perché ci sono gli evasori, lo dicono praticamente tutti da 40 anni. Da 40 anni. Chi più, chi meno. Chi ha i soldi all'estero, chi ha i soldi all'estero deve cominciare a tremare. Allora, che vuol dire? Che novità! No, non c'è nessun ragionamento da fare. Magari colleghiamoci anche con Barisoni e sentiamo anche il suo parere e magari apriamo, come dire, uno spazio di riflessione approfondita, sì, con i nostri amici imprenditori. Sì, allora, sì, la riflessione è questa. Sì, non poi c'è nessuna riflessione, tagliate Parenzo. Giuseppe da Varese, Giuseppe da Varese, buonasera. Pronto? Dica. Dottor Cruciani e Parenzo, buona serata a tutte e due, buonasera. Vada però, Giuseppe. Sì, io vado velocissimo. Che stasera mi girano le palle, dai, forza. No, io vado velocissimo, però voglio semplicemente dire, il motivo della mia chiamata è perché io volevo interloquire sul governo Cavalletta. In che senso, scusi? Ah, il governo Cavalletta sarebbe il governo del Cavalletta o Cavalletta al quadrato, tradotto, vuol dire che è un governo, cioè la Cavalletta è semplicemente un ortotero saltatore che noi lo conosciamo. Ma lo perché questo? Ma questa sera cosa vi è preso? Cosa vi è preso questa sera? Ma che vuol dire il governo Cavalletta? Cosa vuol dire? Cavalletta vuol dire che il governo Cavalletta è un triangolo dove al vertice c'è il cavaliere, il triangolo isocele, qualsiasi tipo di triangolo. Poi? E poi alla base ci abbiamo Letta, Enrichino, Enrichetto. E poi l'altro è Letta, il vecchietto, lo zio. Quindi io dico che Cavalletta, cavaliere, Cavalletta. Cavalletta vuol dire cavaliere. Ci sono arrivato. Arrivederci. Paolo da Massa Carrara, buonasera. Volevo dire, buonasera Cipriani, volevo dire in merito ai no-TAV che Cruciani, sono Cruciani. Sì. Cruciani. Sì. Ai no-TAV che sono delle merde, dei cialtroni. E lo Stato italiano li dovrebbe tagliare l'acqua, l'energia elettrica, il gas, e la loro merda se la dovrebbero lasciare in mano. Ma chi? Non chi? Il no TAP. Sì. No TAP, tutti, ha capito bene, tutti. Valenzo, lei che è da quella parte, no? No, veramente si sbaglia. Perché la Val di Susa sta nello Stato italiano. L'opera che viene fatta è un'opera che in Francia ne fanno la metà e quindi non è una cosa su cui il cittadino dovrebbe mettere bocca. Nel senso, deve mettere bocca per farsi fare le strade e sfruttare l'occasione perché arrivino un po' di soldi per fare. Non difendo nessun no-TAV, io non ci siamo proprio, la penso. No, lei Parenzo difende proprio i no-TAV, quelli che si mettono la maschera antigas, ma lei, non si fanno vedere in faccia. Lei purtroppo si fa di cose molto pesanti e deve farsi ricoverare purtroppo. Beh, devo dire che ha ragione Parenzo. Lei vuol fare il professore, farsi ricoverare. Lei sta dalla parte dei più forti, come si dice. No, Paolo, guarda, Paolo, te lo dico con una tenerezza nel cuore, guarda, lei sta male, Paolo, si fidi di me, lei sta male, non ho mai difeso una volta sola questi signori notar, mai, neanche una volta, quindi lei sta male, e io, ma siccome... Ma con le date delle trasmissioni che avete fatto? Paolo, lei si sta sbagliando. Lei è stordito, purtroppo stordito. Lei ha preso qualcosa. Dovete riportare le notizie, non fare difendere delle persone che usano... che tra l'altro ce l'hanno hanno minacciato l'onorevole Esposito, la sua vita non vale niente. Paolo, ma che razza di cittadini sono questi? Paolo. No, lei purtroppo, no, lei purtroppo è molto grave, perché si sta aggravando di minuto in minuto la situazione. Questa è quella cosa che mi spaventa di più e mi dispiace per i parenti. No, è che ogni minuto si sta aggravando la situazione. No, tranquillo, io sono a posto. No, lei non è per niente a posto. Lei non è per niente a posto. No, lei non è a posto. No, per nulla, per nulla. E allora lo dica in radio. Lo dica in radio queste cose. Invece di Ma lei dice ogni giorno, Paolo, lei è malato di mente. Su, dai. Parlare dei gay, dell'evasione che vada a curarsi un attimo. Sergio da Torino, buonasera Sergio. Buonasera signor Cruciani. Dica. E il suo chauffeur Parenzo. Se, il suo? Allora volevo solo parlare il suo chauffeur. Che io definirei il quarto d'ora del cretino, è vero? Mi dimentico sempre della rubrica il quarto d'ora del cretino, scusami, mi dimentico. Il bignami della banalità tutte le volte che c'è la nuova rubrica di Cruciani, il quarto d'ora del cretino, dove c'è proprio il cretino che telefona uno dietro l'altro. Si sente sempre preso, veramente sto poveretto. Comunque veniamo a qualcosa di allora volevo dire qualcosa a proposito di Notav. Io sono rappresentante, giro abbastanza in Francia, conosco abbastanza il problema con mio collega. Allora due parole, allora ci sono 48 chilometri di galleria, 36 in Francia, 12 in Italia, 36 che procedono, cominciato normalmente, tutti i problemi in Francia non esistono, in Italia esistono. Lo sappiamo, sono d'accordo con lei, Ivan da Milano, buonasera. Lo sappiamo perché, Ivan da Milano. Sì, pronto. Dica. Niente, io volevo dire che trovo orribili qualsiasi tipo di recinzione. Ma non è vero, chi l'ha detto? Le recinzioni sono benedette, in alcuni casi sono benedette, altro che... No. Ma come no? Rovina la bellezza del paesaggio, cioè le persone hanno diritto di vedere il paesaggio in sé. Ma quale paesaggio? Ma che c'entra? Ma questa è una recinzione sotto un ponte, quella a Forte dei Marmi, sotto un ponte, fatto da un'amministrazione di sinistra. La quale amministrazione di sinistra, come al solito, accoglie gli immigrati a parole, però poi i sindaci nei fatti mettono le grate, capito? Mettono le grate. Gli immigrati va bene, ma non a casa loro. Gli immigrati vanno bene, ma non a Forte dei Marmi, dove c'è un sindaco di sinistra, no, non so da quanto era tempo. Tipo una cosa sulla spiaggia. Ma se lei non lo sa, perché chiama? Perché pensavo che era sulla spiaggia. Ma che spiaggia? È un pontile dove sotto ci sono le grate. Ma di che stiamo parlando? Su, cioè bisogna sapere le cose. Paolo D'Ancona, dai, Paolo. Pronto? Sì, dica. Buonasera, senta, a proposito di ciò che lei diceva poco fa, il classico atteggiamento della sinistra e di Parenzo che ha la stessa fa riferimento, no? Cioè che predicano sempre la bellezza dell'immigrazione, la bellezza della contaminazione, l'arricchimento culturale, però Parenzo fa parte di quei radical chic in buona compagnia, visto che a lei piacciono tanti nomi e ne cito 4-5, Michele Santorio, Fabio Fazio, Lilli Gruber. Vabbè, allora... E tutti qua, e questi qua che predicano la bellezza dell'immigrazione, sempre la spada pronta per difendere gli immigrati, però se ne stanno in belle ville, amene, lontano dai discesi popolari, come è successo a me, che ho dovuto scappare da un quartiere e perdere i soldi del mio appartamento perché la vita era impossibile. E siccome lavoro nei trasporti pubblici, nei treni regionali, le posso garantire che la situazione guarda, è invivibile. Tesoro, guarda, che io non vivo in nessuna villa hollywoodiana, tesoro mio. Ecco, ho vissuto a Milano per 10 anni in Viale Monza numero 43. Viale Monza, che è vicino a Piazzale Loreto, vai a vedere su Google dove si trova, che non è certo San Babila o Via della Spiga. Quindi, tesoro mio, so, ed era una zona che era considerata il Bronx di Milano. Ogni volta telefonavo uno, è pieno di immigrati, pieno di nigger. Io 10 anni che sono stato lì. Ho ma visto tanti immigrati, stato, tante brave persone, tante brave, ogni tanto qualche scippo, ma come c'è in qualsiasi metropoli, non esiste la città perfetta, hai capito? Certo. Non esiste la città perfetta, hai capito? Dove non tu, esiste io la città perfetta. Monza, al numero 43 ho vissuto per 10 anni, hai capito? Vai a vedere dov'è, altro che ville. Io lei la conosco di vista da molto tempo e ricordo benissimo quando lei già anni fa viaggiava sempre in Euro Star Freccia d'Argento e allora qual è il rossa. Problema? Scusi, qual è il problema? Qual è il problema? che è distaccato dalla realtà, non sa cosa significa viaggiare su un treno regionale con gli immigrati che si coalizzano per non pagare con i piedi puzzolenti sui sedili in faccia alle persone regionali. Paolo, se qualcuno mette i piedi puzzolenti sui sedili, se qualcuno non paga il biglietto, dovrebbe essere preso a calci nel culo e buttato fuori da un treno, ha capito? Preso a calci nel culo e buttato fuori da un treno con la forza, secondo me, e anche secondo Parenzo, credo. Ma non c'è dubbio, ma perché, scusami, le stesse telefonate di indignazione arrivano quando quegli ultras lì sfasciano i treni regionali che bloccano le stazioni intere. Settimane fa ero bloccato alla stazione di Firenze perché un gruppo di teppisti aveva preso d'assalto un treno, quando smontano tu, e di questi qui non si dice nulla, sempre gli immigrati e gli ultras italiani che smontano i treni, non dite niente invece di quello. La maleducazione è maleducazione per tutto. Cruciani? Che c'è, Paolo? Che c'è? No, lei ha ragione a dire che le persone che non pagano il biglietto dovrebbero essere allontanate dal treno, ma io le assicuro, e se ci fossero qui centinaia di miei colleghi potrebbero confermarlo, che ci sono delle zone che sono diventate ormai zone franche, cioè delle stazioni dove salgono solo immigrati che si coalizzano, sanno che non ci sono le forze dell'ordine. Ma lei ha ragione, ma che cosa vuole che le dica io? Ma cosa vuole che le dica? Queste persone qua andrebbero prese a calci nel sedere, fuori dai treni, senza biglietti, sporchi. Cioè, se non ci sono le forze dell'ordine, purtroppo è un problema. Sono d'accordo con lei, ma non è che io giustifico queste persone. Chi sale senza biglietto su un treno, chi imbratta, chi sporca, va preso a calci nel sedere, multato e processato. Questo secondo me. Dolce e Gabbana al Corriere della Sera. Non ci stiamo nella parte dei ladroni, se ci fanno quella multa chiudiamo. Perché l'assessore di Milano ci ha tirato in ballo? Stavo così male, dice Stefano Gabbana. Stavo così male che al mare mi sono ustionato con la protezione 50. Ora come si può prendere un ustione con la crema protezione 50? 50 io non lo so. È con noi Gianfranco Miccichè, bentornato. Come state? Buonasera. Come state? Bene, insomma, ce la caviamo. Sottosegretario di Stato della Pubblica Amministrazione e Semplificazione. Uomo di governo, ma questo governo che voto dà? Io rido su Miccichè. Sei un maleducato. Ma io sono Miccichè, non rido mai. Sei un maleducato. Ma figuriamoci se rido su Miccichè, uomo di governo. Ha già fatto il sottosegretario. È confermato un uomo di Stato, un uomo di governo. Ma perché ironizzi, Parenzo? Non ho capito. Ironizzi? No, ho detto che è un uomo di governo. Parente. No, parla chiaro, parente. Parente, bene. No, ma che ho detto? Scusi, ho detto che è un uomo di governo, un uomo di parente Stato. Parente serpente, parla chiaro. Ma non posso dire che è un uomo di Stato. Miccichè è un uomo di Stato, un uomo di governo. Ma perché ridi? Parla chiaro, ha ragione Miccichè. Parla chiaro. Ridevi, ironizzavi sul fatto che Miccichè fa il sottosegretario. Di la verità, ironizzavi su questa cosa. Se hai coraggio, devi dirlo. Dico che è un uomo di Stato. Oh, ragazzi, sto dicendo. Ma devi andare fino in fondo, non devi fare il qua ancora qua. È un uomo di Stato, come i grandi uomini di Stato, come è stato. Che voto dà al governo? Quando finite di discutere, mi chiamate. Miccichè, che voto dà al governo fino adesso? 5? 4? No, non ho ancora possibilità di avere voti. Beh, in che senso, scusa? Perché fino adesso ha soltanto lavorato per mettere a posto delle cose, ma non ha fatto ancora nulla di quello che bisognava fare. Non ha fatto nulla, diciamo la verità. Però tutto rimando. A poco ci riuscirà. Rimando. Cioè, il voto quanto è? 4? Si può dare voto 4? No, 4 magari esagerato. 4.5, diciamo, no? Facciamo 6, va. Bisogna essere buoni, sennò si bocciano tutti poi. Ma non bisogna essere buoni, bisogna essere cattivi sempre. No, perché sennò li bocciano tutti, è come nelle scuole. Ma ho capito, siccome siamo a giugno, bisogna a luglio, essere anzi. Cattivissimi noi, come dice un grande libro. Un libro scritto dobbiamo da noi. Dobbiamo essere cattivissimi voi. Noi dobbiamo essere cattivi. Il voto quant'è? 5, 6, quant'è il voto? 5, su. Come dire, ancora non è sufficiente, ma ancora non si è potuto esprimere, per cui non potrebbe essere sufficiente. Vabbè, fa schifo, dai, fa schifo. No, no, no, non esageriamo. No, schifo no, però, no. Però... No, non fa schifo. Però ci sono dei problemi, diciamo almeno questo, perché sennò... Non fa schifo, fino non fa schifo. È un governo che teoricamente potrebbe fare molto bene, aspettiamo. Bisogna avere pazienza. Tranquillo, però, tranquillo, come si dice, tranquillo. Sereno, tenni pure che mano mascida, sì. Com'era la... Te ne puoi regamare la mascida, cioè? Te ne puoi andare con la mano alla mascella, cioè sereno, tranquillo. Però mi scusi un attimo, si può dire fino adesso un governo inutile, Michiché? No, se non altro in termini di un minimo di pacificazione è servito. Ma come pacificazione? No. Berlusconi lo condannano tra poco, quale pacificazione? No, io spero di no. Beh, spero di no, ma tutti dicono di sì, anche il signor Ghedini dice di sì, eh. No, io spero di no, perché secondo me questo è un governo che se non crea questo livello di pacificazione, allora vado tutti a quel paese, ma io penso che lo riesco a fare. Scusi un attimo, però diciamo l'idea, se Berlusconi lo condannano, come dice anche Ghedini, come tutti sono abbastanza allora sicuri. È la guerra, eh? Ma la guerra come? Come si fa la guerra? La guerra assolutamente civile, non guerra. Sì, vabbè, d'accordo, ma come si fa? Cioè, come... Ognuno che dice una cosa viene accusato. No, dal punto di vista concreto, la guerra che vuol dire, amici? La guerra significa che tanti dell'attuale centrodestra, io non credo che saranno disponibili a stare buoni, a dire non è successo niente. Ma è questo qua, siamo d'accordo, se lei dice la guerra, poi dice tanti... Quindi fare che cosa? Cioè, il governo cade immediatamente? Non lo so, ma certo, non, diciamoci la verità, Berlusconi sta facendo di tutto per tranquillizzare. Sì, perché questo io credo che se ci dovesse essere contraddizione in termini, la condanna per il governo sarebbe dura poter continuare a stare in piedi. Però amici, lei mi è troppo diplomatico su questo punto. No, diciamola così, guarda Cruciani, vediamo se Michiché è d'accordo con me. No, lei è un uomo di Stato, d'accordo. E quindi faccio. No, diciamola così, vediamo se Michiché è d'accordo. Però con è anche Michiché, è un uomo di Stato, ma è anche Michiché, cioè un uomo sanguigno, come dire, no? Sanguigno, cioè non è uno. No, ma sanguigno nel senso uno che non è un... No, fammela dire così. Cioè, non è Letta lei, capito? Cioè, non è Letta, intendo, sia... No, Letta, sia Letta zio che nipote, molto, no? Scontento. Lei è Michiché, cioè è uno sanguigno che porta i voti, non è uno di quelli che sta lì a fare tic e toc, tic e tic e tic e toc. Allora, che cosa vuoi sapere, porta i voti? No, porta i voti nel senso uno che sta sul territorio a fare battaglia, non è che uno che fa l'uomo... No, quello sempre. Ma in senso così, mica in senso... No, ma io pure, in senso positivo. Parenzo, che c'è? Dimmi. No, Michiché ha detto una cosa adesso, se scherzi a parte, molto interessante. Cioè dice Berlusconi sta calmando tutti gli animi, no? Ricorda molto Berlusconi, forse. Si ricorda di Palmiro Togliatti quando ci fu l'attentato davanti alla Camera, no? Palmiro Togliatti, scusa. Ma non lo so, lo lasci parlare un attimo. Michiché, lo lasci parlare un secondo, così si sfoga. Parenzo, sei d'accordo, dimmi. Questa metafora su, sarà sicuramente d'accordo, Michiché. Dice Berlusconi sta calmando gli animi, un po' come fece Togliatti quando gli spararono davanti alla Camera, sì. E lui, quando c'erano i partigiani pronti a prendere le armi, lui disse no, state calmi. Ecco, mi posso permettere di dire, ora io non ricordo quel giorno, non mi ricordo cosa facevo quel giorno, credo che sia l'unica soluzione per evitare le guerre civili. Se uno è un uomo di Stato lo deve fare di tutto per evitare. Però scusi un attimo, io dico una cosa, dunque lei, il governo cade un minuto dopo, si può dire questo? No, non ne sono sicuro, sono sicuro che certo la situazione non sarebbe di facile gestione, ma che cada un minuto dopo non... Ma lei per esempio si dimette un secondo dopo? Basta che me lo chieda. Se glielo chiede Berlusconi dopo due secondi? Assolutamente sì. Assolutamente, cioè sì. Lei ha le dimissioni praticamente in mano a Berlusconi? Cioè Berlusconi è... No, ce l'ho io, cioè, le dimissioni ce l'ho io, ma se dovesse succedere una cosa di queste le userei immediatamente. Immediatamente. Però insomma, che possibilità dà il governo di sopravvivere se Berlusconi il 30 luglio? No, non credo che cada 10%. Così facilmente. Ah, non è facile, ma anch'io sono convinto di questo. Poi uno dice cade, molti dicono che resisterà anche alla condanna di Berlusconi. No, questo devo dire che mi viene più difficile immaginarlo, come essere, scusi, pure. Ho capito, ma lei lascia aperte tutte le possibilità allora. Da che dipende anche? Viene condannato... Mi pare difficile che non cada... Se si dimette Berlusconi, È difficile che non capire. Non capire, può essere poi che riesco a capire. Quindi... Ma lei è uno di quelli che vorrebbe le elezioni subito, diciamo la verità, amici. Che... Sì, sono uno il più presto che... possibile. Io sono uno di quelli che certamente le elezioni non le disprezzerei. Non le disprezzerebbe. Il più presto, andare a votare il più presto possibile, ovviamente con Forza Italia. Ça va sans dire, no? Ça va sans dire. Dobbiamo dobbiamo rifare Forza Italia, sì, quello è sicuro. Quello è sicuro. Parenza, hai capito? Quello è certo. Sì, no, ma quello è certo, ci sono milioni di persone che aspettano l'annuncio. Eh beh, l'annuncio, perché potrebbe anche essere, potrebbe anche come essere. Malco, è un passaggio epocale, come quello di Malcolm X, come Mandela quando ci fu, aspettano tutti, come Gandhi, cioè aspettano tutti già l'annuncio mondiale Urbi et Orbi, che ci viene la rinascita di Forza Italia. Ma perché sono per tutti... il culo questa cosa qua? Ma perché? No, non dico così. Lui è fatto così, Parenzo, che vuoi fare? Dice niente da fare, è fatto così, non lo cambia. Parenzo, ma che cosa stai dicendo? Un partito come Forza Italia potrebbe essere guidato dal Fano, potrebbe essere guidato dal Fano, secondo lei, Michiche? No, secondo dai, me difficilmente, ma potrebbe anche essere. Beh, no, adesso Michiche, che lei dica, beh, difficilmente, scusa, però anche potrebbe questo anche essere. Io che ne so, secondo me difficilmente, poi se cioè, allora potrei guidarlo anch'io, scusa, dal Fano, se vedrà, insomma. Anche Parenzo potrebbe guidarlo a quel punto, al posto potrei di Alfano a quel punto, no? Sì, forse anche Parenzo. Anche Parenzo. Capito? Tutto finito, su. Hashtag. Cioè, Forza Italia guidata dal Faro, diciamo, siamo seri. No, voi perché siete seri? Non c'è serietà. Ma alla fine. Ma tanto non me ne fate dire le cose che volete. Cruciani e Parenzo, non no, me ne fate dire. No, anche che Alfano è stato incapace a gestire il caso Cazzago, non glielo facciamo dire, anche se lei lo pensa. Io non penso niente. Non pensa niente, non dice. Se lo pensa, lo deve pensare lui, voglio dire, quello che ha fatto. Poi basta. E che ha fatto? Ha gestito male questa vicenda, su. Ma poteva gestirla meglio. Ma l'ambasciatore Cazzago dice che era difficile trovarlo al ministero, che cercava il ministro e non lo trovava. Ma lei si rende conto o no? L'ambasciatore Cazzago in Italia cercava Alfano e non lo trovava mai al ministero. Alfano è maestro, se non si vuole fare trovare non si fa trovare. Però sembra difficile, quello era messo lì a giocare a nascondino. Beh, ho capito, però se quello lo cerca al ministero e non lo trova, significa che lui al ministero non è che ci sta poi così tanto, diciamo la verità. No, non significa che lui ha affidato una cosa che era delicata al suo capo di gabinetto. Ma insomma, vi ha messo in grossa difficoltà. Ma cosa sta mangiando, mi ci chiedono, che sento come mastica qualcosa, non so. Sì, forse sta masticando. Non parlo della storia di dei Cazzaghi. Di Alfano. Che perché è una storia triste, dice lei, no? Perché è terribile. Cazzaghi, che mette una certa tristezza il modo in cui è stata gestita. No, tristezza, non mette nessuna tristezza. È una storia brutta, ma è una storia brutta non per come è stata gestita, è una storia brutta di per sé. Vabbè, è brutta, però voglio dire, è il protagonista principale, che è il signor Alfano. Oddio, che palle. Ma che ha dimostrato? Che ha dimostrato con questa vicenda? Di essere... Che doveva dimostrare? E che ne so, di non essere capace di gestire qualcosa? Non ma lo so. No. Lui è bravissimo. Beh, questa storia ha dimostrato. Comunque, Forza Italia non sarà guidata da Alfano. Questo lo possiamo questo dire? Questo io non ne ho idea. Non hai idea. Lei non sa niente. Non ho idea. In questi giorni non sa niente. No. In questi giorni non sa nulla. Cosa sa lei? Giriamo la domanda. È tappato dentro casa. Che cosa c'ha? In questo momento. È tappato con le saracinesche chiuse. Come sono scritto? Con i termosifoni accesi. Con i termosifoni accesi. È una cosa pazzesca, dai, su. Giriamo la domanda. Che cosa sa allora lei? Cioè, tema libero. Che però io invece ho una cosa da chiedere a Michi, perché qui voglio una risposta sincera. Sì, della questione dell'omofobia non me ne frega un cazzo, perché io sono, se lo dice, sono d'accordo con lui. Di tutta la questione dell'omofobia. Ma io, quando ho detto quella frase, l'ho detta. Quale frase? Quella della questione dell'omofobia. Io non ho detto che non me ne frega un cazzo della questione. No, ma è una domanda. Io ho detto che per quanto mi riguarda, che ci siano degli omofobi non mi interessa nulla, cioè non è un problema, non me lo vivo come problema. Non è un problema questo dell'omofobia, lo dica, lei sta con quelli che... No, questo è l'omofobia, senza fare il furbo. Io non dico che non è un problema quello dell'omofobia, io dico che io non ho nessun fastidio, non lo creo come, non mi creo il problema dell'esistenza di questa vicenda, è disinteressato a questa vicenda. Non ho interesse a discutere delle cose sui gay, che ha tendenze diverse alle mie, punto. No, ma non è questione di questo, a lei della questione della legge sull'omofobia, questa discussione qua infine, non gliene frega niente. Diciamoci la verità, queste discussioni sono abbastanza inutili. Oh, siamo arrivati a... spero che arrivino a una soluzione che piaccia a tutti. Però sono inutili, è poi roba che non interessa a nessuno, ma su questo io sono d'accordo. Ma non a nessuno, poche persone. Io posso dire che è una cosa che, se uno deve essere vero, sincero, e dire le cose che pensa, è una di quelle cose che a me non interessa, lo dico, punto. Beh, abbiamo la pubblicità, torniamo subito. La Zanzara. Siamo con Gianfranco Micichè, sottosegretario di Stato alla pubblica amministrazione e semplificazione, leader di Grande Sud. La verità tu, Parenzo. Sì, Parenzo. La fai ancora quella boiata? La fai ancora quella boiata? È stupendo. Quella boiata, ancora cosa, scusi, la boiata su Rai 3, questo intendo. Entra nel merito di trasmissioni televisive, perché la vuoi chiudere? Ma perché uno non può giudicare come spettatore? Cos'è, scusa. Questa? Cos'è questa novità? La vuoi chiudere? Articolo 21, Siddi, come si chiama il presidente della federazione? Ma che c'entra? Sta dando un giudizio da spettatore. No. Tu, scusa, Parenzo, il fatto tutta la vita ho lavorato in televisione, che mi vuoi bloccare? Si muova il fatto quotidiano, lei ha determinato la chiusura di quella trasmissione, sono un martire. Beh, sono comunque ti ha fatto una domanda. Ah, quindi non la fai più perché ha chiuso. Allora, io non rispondo con uomini di Stato, non voglio avere con gente di Stato, uomini di Stato. Ma guarda, cosa che vuole sapere, Micichè? Non ho capito. Cioè, l'onorevole che bisogna dire. Micichè, è stato in pubblica Italia un sacco di anni. Ho lavorato in televisione per tantissimi anni. Televisione dove ha lavorato? Scusi. Piacerebbe, ho lavorato con Berlusconi a Canale 5, altro pubblica Italia. Appunto, e quando si lavorava in pubblica Italia, di fatto si lavorava in televisione. Ecco, appunto. Ha visto la tua trasmissione, ha detto che è una porcheria. Questo è vero, glielo ha detto anche a lui. Sì, mi ha telefonato, è vero, mi ha detto chi è sta porcheria che hai fatto? Chi è sta porcheria che hai fatto? Io ho detto chi è? Gianfranco sono. No, t'ho dato un suggerimento, ho detto che secondo me ci perdevi. Scusi un attimo, amici, che io però voglio capire. Ho scoperto, un giorno ho scoperto. Vabbè, adesso non ce ne frega niente. Ringrazio la Rai. Vogliamo chiudere il microfono quando fa il buffone così, Parenzo? Chiudiamo il microfono un attimo. Allora, devi sapere, Parenzo, se ti sei ripreso, che Micichè, ho scoperto che in realtà ha un telefono dell'anteguerra, cioè sono tutti provvisti di iPhone, BlackBerry. Lui gira con un telefono assurdo. Che c'ha di assurdo? No, ma un telefono di questi qua di 10 anni fa, di 15 anni. Cioè uno di questi... Il telefono non lo uso per fare tante cose, lo uso per rispondere al telefono e per chiamare. Cioè lei non manda i WhatsApp, le cose? Non li so fare. Non rimorchia via non telefono, fare, diciamo, non li so no. Fare. No, non è uno di quelli devo che... No. Delle nomine. No, assolutamente. Magari per ricevere delle raccomandazioni, cose così, no? No. Telefono, le per carità. Le ricevo per iscritto. No, telefono. Ma lei ha mai fatto delle raccomandazioni? Sì. Beh, assolutamente sì. Sì, ma dove? Anche alla regione, sì. Assolutamente sì, ma voi pensate che... Come assolutamente terra, sì. Come la Sicilia. Ma perché sì. Assolutamente una sì. Quantità incredibile di gente sì. E non campa. E quindi ti chiede aiuti di tutti i tipi, gli aiuti di tutti i tipi si chiamano raccomandazioni. E quante volte ha raccomandato? Quante persone ha raccomandato? Migliaia? Quando ho potuto farlo l'ho fatto, quando non ho potuto farlo. No, ma quello è chiaro, migliaia di persone in tutto. Ma lo dice così? Ma perché lo dice? Posso dire, a me una volta mi ha fatto impressione sì. e Giancarlo Galan sì. che mi ha detto, ma sai, a me in tre legislature che ho fatto del presidente della regione mai nessuno mi ha chiesto un posto di lavoro. Vabbè, ma è un paese è una cosa civile. Io l'ho capito, allora. Sarà una cosa civile, mi sono impressionato perché dalle nostre parti ti richiedono sì. Ogni secondo. Beh, ho capito, ma hai sbagliato. Non è bello. Stanno morendo di fame tutti, Cruciani. Ma cioè, i posti ma pubblici chiedono, sono una iattura, amici che... Scusami, non è sbagliato che te lo chiedano, può essere sbagliato come tu glielo dai, che diverso. Beh, lei no, dice che ne ha fatte migliaia, quante raccomandazioni ha fatto lei? Migliaia? No, io ne ho ricevute migliaia. No, lei ha detto ne ho fatte. Poi, per farle, hai bisogno di tutta una serie di condizioni che non sempre hai, che quindi non sempre riesci a farle. Ho capito, ma lei ha detto che ne ha fatte tante di raccomandazioni. E meno male. Detto e mi sono orgoglioso di aver fatto tante raccomandazioni. No, orgoglioso c'è poco che c'è da essere disperati, non orgoglioso. Ma anche alla regione, ha anche messo nei posti pubblici lei. Ma no? Raccomandazione non significa soltanto assumimi senza merito questo mio amico. Vabbè. Raccomandazione può essere come spesso è una persona che è in difficoltà, che ritiene di avere subito un torto. Ma che e male. Quindi tu, ma che in difficoltà, ma quando mai? Ma che difficoltà? Ma che difficoltà? Cioè, ma le raccomandazioni sono raccomandazioni, punto e basta. Su. Non è ma così, sembra, ma scusi, guardi che la normalità è la normalità è in Veneto che non ha mai ricevuto nessuna raccomandazione. Ho capito, beati loro, noi vorremmo essere in quella normalità e purtroppo non ci siamo. Ma c'è assolutamente e per forza, beati se loro. Voi li ricevete, ma voi dovete mandarli via appedati nel sedere chi viene a chiedere. Dice dottore amici che invece trova un lavoro. Ma perché quelli i siciliani parlano la lingua italiana, perché parli così? No, fa così succede. Come fanno? Bussano. Perché sei un maleducato e un razzista. Per questo parlano i siciliani parlano benissimo, non dicono dattane, dattane. Sei razzista. Ha ragione però. Non sono razzista. Allora, com'è che succede? Come fa? Com'è la scena? Ho semplicemente messo in scena, poi te lo faccio anche con il nord, se vuoi, uguale. Sì. Col nord. Come fa la scenetta però? La scena come fa? No, fammelo fare a Parenzo. Parenzo, no, Parenzo, come fa? Pronto, dottore Miccichè, c'è qualcuno che la vuole? Faccia entrare, dottore Miccichè, sono a Gennaro e ci vuole del lavoro. Gennaro. Allora? Sono salvo, c'è bisogno, non c'è lavoro e c'è tutta la famiglia a casa, ci deve pensare lei che è politico, onorevole, lo chiamano pure onorevole, Parenzo, e ci deve trovare il lavoro. Sei ferma qualche anno fa. Comunque oggi leggo sul Fatto Quotidiano. E invece al nord succedono altre cose. Aspetta un attimo, un'azienda della regione ha sprecato 20 milioni di euro. Queste sono cose per cui bisogna incazzarsi come iene, come assolutamente, belve. Assolutamente. Ma Michele è d'accordo, non è che deve essere d'accordo. Poi pure lei ha fatto queste cose. Ha sprecato oltre 20 milioni di euro. Ma non ho sprecato mai nulla. Assumendo 160 operatori del 118. Guarda, per stare allora, a casa. Se tu mi trovi in giro per l'Italia una sola assunzione che ho fatto io, ma se mi io sta te la pago 100 ma milioni. Se mi sta dicendo che ha raccomandato un sacco di gente, mi ha appena detto questo. Raccomandare, io raccomandavo, posso anche raccomandare segnalato Parenzo per farlo licenziare alla RAI che si sta rovinando. Questo non significa niente. Vabbè. Non è raccomandazione che è la raccomandazione, con la segnalazione e basta. In Sicilia no, non è che funziona così. Ma la raccomandazione, stai attento, guarda che è una cosa che non è che sia come dire, una certezza, una cosa, uno si informa come quella di... sì, la maggior parte della gente sai che ti dice che comunque ha avuto dei torti e allora è giusto andarsi a informare, sì, se è vero che li hanno avuti. La gente dice un sacco di minchiate pure, dice anche un sacco di minchiate, ma non sempre. Scusi Michiche, allora questa cosa sul voto di scambio è una minchiata, allora allucinante questa cosa di cui si sta parlando del voto di scambio. No, il voto di scambio è una cosa seria, però vabbè, lei è una minchiata, dai, su. Ma perché? Guarda che incredibile sta cosa qua. Cioè, lei non vuole essere sincero fino in fondo. No, io lo sono sempre, guarda. Appunto. Voi non lo siete, Parenzo non lo è. Parenzo in particolare non lo è. Comunque lei mi deve dire la verità. Io ho raccomandato un sacco di gente e sono orgoglioso. Il punto io ho raccomandato soltanto per delle cose che erano assolutamente possibili fare, gente disperata. Ma che gente disperata? Gente che voleva un posto di lavoro e lei gliel'ha dato un posto di lavoro. Pensi male, Parenzo. No, ma Cruciani. No, ma io non penso male, è una questione culturale, basta con le raccomandazioni. Ma che questione culturale? Non fate il razzista, è una questione culturale. Questa frase mettetevela, non voglio nel culo, nel culo. Questa idea malata, cosa razzista è una questione culturale, dimenticatevela, perché non esiste questa stronzata. Ma come non esiste? Ci sono migliaia di dipendenti regionali che andrebbero cacciati dal calcio nel sedere, dai, su. Migliaia di dipendenti regionali, comunali e tutto, Zitto e fammi parlare. Tutti questi dipendenti regionali sono stati creati da precedenti governi nazionali. Ma che nazionali? Sì, nazionali. Vabbè, ciao, buono. E perché nazionali? Perché basta. Nazionali? Perché dite stupidaggini? Perché nazionali? Ascoltare le vostre stupidaggini. No, ma non sono stupidaggini. Anche nazionali. Anche nazionali. Anche. Perché quando in Sicilia, anziché arrivare il lavoro produttivo, ti arriva il carrozzoni Non è solo colpa degli altri, perché facevano quello, cioè assumevano lì per fare campare la gente. Certo. Oggi ce li ritroviamo tutti qua. Certo. Sono scelte 1950. Ma che ne dovete capire voi? Dai, basta. Non perdiamo tempo inutile. Non le capite queste cose. L'abbraccio capiamo. Come? Che dice Parenzo? Mi piace quando mi dice come? Come? Parenzo, ma che dici, Parenzo? Perché è di un razzismo? È di un razzismo, Parenzo, pazzesco. Alla fine Parenzo, mio nonno era di Catania, ma di che razzismo stiamo parlando? Si dice mio nonno Caracciolo. Si dice era di Catania. Si dice sempre così, Ma così. Non è vero, io che dice, ma io scherzo, che nonno era di Catania, il nonno era di Catania. Vabbè, ragazzi, ma io prendo per il culo i bergamaschi, i veneti ogni giorno, mi accusano di prendere in giro i bergamaschi. Vi lascio. Comunque oggi ho letto che c'è in Italia c'è un aumento di consumo di cannabis. un aumento molto forte di consumo di cannabis. Io sono a favore della legalizzazione della cannabis. Non me ne parlate, a me non faccio parte io in questo momento. No, io dico, ho letto una notizia oggi che in Italia il consumo di cannabis tra i giovani, dunque lei non c'entra niente, insomma, c'è, esatto, perché non è giovane, è aumentato a dismisura. Questo significa che bisogna legalizzare ciao Lorenzo, il consumo. Un abbraccio, ci sentiamo presto. Ciao, legalizziamo sto consumo di cannabis, ciao, o no? Ciao. Oh, gaga, stupendo. Pubblicità. La Zanzara. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Ivan da Roma, buonasera Ivan. Buonasera. Buonasera, dica. Volevo fare un augurio al signor Priebke. Sì. Magari se glielo porta l'avvocato Taormina. Sì. Di vivere ancora tanti giorni quanti sono le persone che ha ammazzato. Sono tanti, però 300 rotti, Perfetto, ogni notte però gli dovrebbe apparire una delle persone che ha ammazzato per dargli un bell'incubo. No, così lui ormai ha cent'anni, ormai ha cent'anni, ha cent'anni. Cruciani, ma dai, cent'anni, su. Cent'anni di ingiustizia, cent'anni di una persona che veramente io spero che abbia veramente ha vissuto male, perché per tutte le persone che ha concorso, va bene, d'accordo, ad ammazzare. Va bene. Saluto Parenzo, perché ciao caro, grazie. Gli sarò vicino. Grazie. Va bene, Costantino da Caserta, buonasera. Grazie davvero, questo è un tema troppo importante per essere liquidato così, con Costantino, il traffico, lo smog. No, Costantino da Caserta, Costantino è un ascoltatore. Le previsioni del tempo. Sentiamo cosa ha da dire. Costantino? Posso? Sì, posso? Dica. Senta, ieri sera ho sentito quel presidente dei gay, là, non so che, come si chiamasse, e avete superato qualsiasi limite della decenza. In che senso? Noi lo superiamo spesso il limite della decenza. No, per cui... ma ieri sera proprio quello si è inculato 25 giovanotti. Poi... Chi si è inculato 25 giovanotti? Quello, l'ospite, il vostro. No, 25, mica ha dato cifre, 25, non è vero. No, così, sì, a un certo punto. Ma non è nessun presidente di nessuna cosa gay. Aldo Busi, un grandissimo scrittore, signor Aldo Busi. Ah, Aldo Busi, un grandissimo scrittore. Sì, e qual è il problema? È frocio, allora? È omosessuale, allora? Ma non che in una radio dove la possono ascoltare tutti, basta collegarsi con sì, un, basta collegarsi e uno sente queste cose. Qual è il problema? Non le piace? Chiuda la radio. No, ma non è per me, è per tanti ragazzini, tante ragazzine. Ma che no, non si preoccupi, poi ragazzini. Mi chiedono, dice, nonno, ma che cos'è? Spiegami. E lei spiega, allora, lei spiega che ci sono gli omosessuali, ci sono le persone... E che d'accordo, ma che poi vanno in una radio a dire queste cose, sì, certo, facendosene un bando. Ma è normale, qual è il problema? In Germania lo fanno, in Germania lo fanno, Parenzo. Poi sì, vabbè, ma in Germania qua ancora non siamo come la Germania. Qua siamo ancora anni luce distanti dalla Germania, ci dobbiamo arrivare con... Sì. Dopodiché ha telefonato quell'altro da Milano, sì, che ha rincarato la dose, proprio... Meno male che quello l'ha fatta nera, insomma, finalmente ha trovato pane. Scusi un attimo, te. Costantino, ma lei danno fastidio agli omosessuali? No, a me non danno fastidio agli omosessuali. No, però un po' però se... che si rispettasse un... Se non si avvicinano è meglio, no? No, no, no, a me non danno fastidio, io ci convivo regolarmente, ne ho colleghi, ci sono alcuni colleghi in ufficio, sono persone dolcissime. Dolcissime, rispetto, sì. Ci rispettiamo, eccetera. Sì, però basta, ma che non rompano i coglioni. Che però, non che non rompano, che in un certo momento... Si possono pure fare dei discorsi quando siamo fra di noi, quando ci sta, sì, un pubblico limitato, ma che poi in una radio ci si mette a dire quello che ha detto quel Busi, sì, ieri, che ha inculato, ha fatto... Ma non ha detto che si è inculato, non l'ha mai detto, ma non l'ha mai detto, ha detto... Perfettamente. Ma non ha detto la parola inculata, anche se l'avesse detta, francamente. Lei scopato, anziché inculato si è scopato. Sì, si è scopato un sacco di gente, sì, si è scopato un sacco di gente. Ma qual è il problema? È la vita, che... è la vita, è la vita. Sì, però la vita non si dice così in maniera pubblica, dove tutti quanti possono ascoltare, anche è... le persone che danno fastidio a queste cose. Ma questo è un po' inculcati, ormai la società non esiste più, si va avanti così, proprio con questo tipo di manifestazioni, di trasmissioni, con questi personaggi. Questi personaggi. Che si mandano e fanno, vogliono far passare per normale... quello che è normale, non è, anzi è normale in privato, ma non in pubblico. Questo vabbè, è quello che volevo dire. Abbiamo il traffico, Costantino. Mamma mia, queste cose bigotte, cioè, a lei non piacciono queste espressioni in pubblico, pazienza. Noi invece rappresentiamo anche il privato, le cose che si dicono in privato le portiamo qui in questa specie di piccolo postribolo. Traffico. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Ovviamente noi siamo dalla parte del senatore Esposito del Partito Democratico, il quale riceve lettere di minaccia da parte di sedicenti brigate rosse o chi per loro, con la stella a 5 punte in cui c'è scritto che deve morire. E Esposito dice anche che è stato lasciato solo dal Partito Democratico, il segretario Epifani non si è fatto sentire. Aguglie, a Epifani, fai una telefonata, no? Fai una bella telefonata, alza il telefono come abbiamo fatto noi, chiama Esposito, minacciato da delinquenti fascisti, brigatisti o presunti tali, fai una telefonata e dai solidarietà, il segretario del partito, a un suo esponente di punta in Piemonte, il quale ha delle idee che sono quelle tue, perché il Partito Democratico è un sostenitore della TAV. Certo, qualcuno adesso ha il mal di pancia, però la maggior parte del partito è schierato a favore del treno veloce. Fai sta telefonata. Io voglio risentire la voce di Esposito, perché è veramente una persona, noi difficilmente appoggiamo delle battaglie, appoggiamo delle cose, però quando un uomo viene minacciato, quando un uomo viene perseguitato da fascisti, da violenti, da estremisti di sinistra o di destra, non ha importanza qui, da gente che non ha niente da fare dalla mattina alla sera se non tirare le pietre ai poliziotti per sfogare la propria repressione, per sfogare la propria frustrazione, la propria nullità nella vita sociale. Dimmi, Parenzo, che c'è da dire? No, no, questo sì, è tutto sottoscrivibile. Mi chiedevo come mai, ma adesso ti arrabbierai sicuramente moltissimo. Forse sarebbe utile dedicare quest'ultima parte di trasmissione a un approfondimento sul decreto del fare. Senti, ma perché non te ne vai a fare in culo un attimo? Mi è arrivata no, via dico, mail una cosa. Mi è arrivata fare, via mail una cosa. Governo, non mi interessa. Mi è arrivata una cosa via mail. Decreto, già una cosa che si chiama decreto del fare. Ma infatti non la voglio nemmeno pronunciare questa. Cruciani ma e Parenzo. Sentiamo Marisoni che ti aiuta a approfondire il tema. Ma mi fai finire un attimo. Cruciani e Parenzo, prove tecniche di regime. È arrivata una cosa con degli errori di grammatica anche spaventosi. Val di Susa, tagliati 5.000 alberi secolari per un'opera che non si farà. Ieri alla radio Cruciani ha detto che i notab sono solo dei teppisti, ovviamente non l'ho detto. Dare del teppista a cittadini che vanno con moglie e figli a manifestare contro lo scempio inutile, come in tutte le puntate, ha denigrato senza H il Movimento 5 Stelle per tutta la trasmissione La Zanzara, la radio di regime, come durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo in una guerra senza saperlo. Questo che ha scritto questa cosa è ovviamente un cretino. Questi 300 personaggi, soggetti, io li ho chiamati delinquenti e lo ribadisco, si sono organizzati con maschere antigas e con tutte le armi contundenti ed esplosive di cui dispongono, per fortuna non hanno ancora le bombe a mano, e hanno annunciato e poi messo in atto un attacco, solo l'ennesimo, al cantiere TAV. Vi indignate tanto per le manganellate? Ma se domani mattina pensate di prendere a schiaffi un poliziotto in mezzo alla strada, cosa pensate che vi faccia? Baci e abbracci? Beh, non fa una grinza, amici miei! Se attacchi un poliziotto in tenuta antisommossa, che ti aspetti? Che ti fa? Sì, ti do una carezzina, amico mio Notav. Vengo lì e ti accarezzo il volto. No, te becchi una manganellata. E quando parte la manganellata, uno non è che dice no, però la manganellata non la si può dare in faccia. La devi dare in un corpo sotto. Sì, certo, tendenzialmente è così, caro Parenzo. Però poi il poliziotto, quando sta lì, si deve difendere anche da altri 100 che arrivano dietro a tirare i sassi. Dunque non è che può valutare. No, la manganellata la vogliamo dare sulla spallina invece che in faccia, la vogliamo dare, no, sulla schiena dove fa meno male, oppure sul gluteo, oppure sul piedino. No, te la do dove capita, te la do dove capita, anche in testa, anche in testa, anche in testa, anche in testa la manganellata, anche in testa. Che puedo riposar. Michele da Parma. 300 teppisti che voi purtroppo legittimate con interventi come quelli che avete fatto in quest'aula attaccano un cantiere, sono la legalità o la non legalità? Per me la legalità sono quei ragazzi in divisa, poliziotti, carabinieri e finanzieri, che difendono lo Stato e usano gli strumenti che lo Stato ha messo a disposizione. che sono anche il manganello. Voi preferite o pensate che dovrebbero usare le pistole? Io non lo penso. Lacrimogeni e manganello. Ma non fa una grinza, amici miei! Esposito a capo del Partito Democratico, amici miei! Sì. Michele da Parma, prima stavo chiamando Michele, poi mi hanno mandato il file, dai. Sì. Allora? Buonasera Cruciani, ascolti. Ah, c'è un leggero ritorno della mia voce. Ma io sento perfettamente, dunque vado avanti. Va bene, allora vado avanti. Allora, io volevo intervenire sull'omosessualità. Sono convinto, io, anche per motivi culturali e di formazione, sì, l'omosessualità è una malattia. Eccolo là, avanti. No, aspetti, no, eccolo là, Cruciani, lei è troppo intelligente, mi faccia finire. Dai, su. Il problema qual è? Se lei ha un figlio fino a 18 anni che manifesta tendenze omosessuali, sì, la neuropsichiatria infantile le dice portamelo perché è da curare, perché ha come diagnosi un'alterazione dell'orientamento sessuale. Ma lei è pure medico? Parliamo di omosessuali, non di transessuali. Ma lei fa il medico per caso? Fa il medico? Sì, io sono medico. Lei fa il medico e sostiene che un omosessuale in sostanza è malato? No, certo che lo sostengo, è così. È ma così. Non è un problema. Noi abbiamo i diabetici, abbiamo gli ipertesi, non c'è ma niente non di è male. Come il ma diabete, è il non è come essere diabetico o iperteso. Lo so che è peggiore, lo so che è peggiore. Ma non è peggiore, lo pensa lei che è peggiore, lo pensa lei che Cruciani. È peggiore, Michele. Non c'è scritto Cruciani. Da nessuna parte, ma dove le ha lette queste cose? In quale testo? Lì mi Cruciani. Preoccupo, lei è medico. Scusi, mi lascia finire. Io penso che lo sia, lei pensa di no. Nessuno dei due può dimostrare chi ha più ragione. No, io lo dico io. E come no? Ah, lasci finire. La neuropsichiatria lo dice, non lo dico io. La neuropsichiatria. Qual è il problema? Che il 99% delle persone omosessuali... Parenzo, pensaci tu dopo. Ha dei problemi con i genitori, cioè ha dei genitori di merda. Sì. Ma nessuno va a curare il genitore. Gliela giro. Invece la persona omosessuale ha il diritto a sapere che ha dei genitori che non l'hanno... che gli hanno dato degli esempi sbagliati. Le dico di più, se lei ha un bambino, se lei vede un bambino obeso, che oggigiorno ce ne sono tanti, tutti dicono, oh poverino come obeso, ma nessuno dice a quel bambino, se tu sei obeso è perché i tuoi genitori sono stronzi. Io voglio essere molto netto, ma questa è la realtà. Tutti portano il bambino dal pediatra. Sì, il beh, pediatra, certo, anche lui cosa dice? Per l'obesità mi pare evidente. Un bambino obeso. Sì. Dunque no. Un bambino no. Sta solo manifestando una necessità di essere ascoltato. E quindi diventa obeso anche da grande, perché nessuno gli spiega che i suoi genitori sono l'errore, non lui. Lui cresce convinto che l'obesità sia perché lui mangia. Sì. Mi spiego? Allora, qualsiasi omosessuale, quando comincia a capire la sua omosessualità, io credo che abbia un diritto etico di poter scegliere, cioè di dire mi piacciono gli uomini, mi piacciono le donne, sì, ma che sappia che se lui, come tutti gli omosessuali, all'inizio lo vive come un dramma, perché tutti lo vivono come un dramma, sì, e da qui la loro necessità di fare outing, sì, okay? Cioè di essere accettati, sono i primi che all'inizio non si accettano, hanno il diritto a sapere che di questa difficoltà di accettazione possono parlarne e che qualcuno ne è responsabile, e non sono loro. Allora, Parenzo, ti vogliamo tirare le file di questa discussione? Io credo che per tirare le fila di quello che è stato detto, sì, c'è soltanto da dire questo: l'orario in cui si può, che lo ribadisco, per anche se siamo alla fine della previsione, venerdì chiudiamo, ma qualora anche il prossimo anno noi fossimo di nuovo in onda, da settembre, sì, l'orario per telefonare per le persone con problemi è tra le 19.30 e le 20. È l'orario concordato col Ministero della Salute, ratificato il nuovo accordo con la ministra Beatrice Lorenzin pochi mesi fa tra la Zanzara e il Ministero della Salute. Sì. Fuori da quell'orario non c'è la convenzione, capito? Sì, ma l'orario qual era? L'orario qual era? 19.30-20. Ah, okay, siamo capito. Alle 20.20. Sì. E fuori orario, c'è cioè una telefonata. No, fuori ma non era, l'orario era più largo, perché tra 19.30 e 20 magari intervengono poche persone. Comunque, vabbè, siamo fuori orario. Dunque. È perché c'è la spending review, e quindi sì, hanno fatto dei tagli però, lineari. Michele, la cosa più grave, lei ci sta dicendo da medico, sì, che certo, la appunto, omosessualità, appunto, cosa più grave, che l'omosessualità è una malattia. Sì, certo. Ma scusi, ma lei dovrebbero togliere la licenza, l'abilitazione? Per fortuna. fortuna che non me la tolgono perché sono un gran bravo medico. Ma lei sarà pure bravissimo, ma c'è un problema. Se lei considera un omosessuale un malato, una persona che i genitori possono... Cioè, lei ha fatto un esempio con l'obesità, cioè portano gli obesi dal medico. Lei dunque sostiene che i genitori che hanno un figlio omosessuale dovrebbero portare l'omosessuale dal medico? No, lei non è stupido, non mi prenda in giro. No, no, ma la stessa cosa, come no? Io no, io le ho spiegato, io le ho detto l'esatto opposto. Io le ho detto che quando uno, avendo un bambino obeso, i medici, sbagliando, curano il bambino sull'obesità. Beh certo, un ma perché sbagliando? Un bambino obeso ha un sono i suoi genitori il problema, non il bambino. Dunque il problema degli omosessuali, dei bambini, dei ragazzi omosessuali che hanno genitori come? Che sono un problema. Perché? Non lo dico io. Perché? Cruciani, lei fa semplicemente Google. Perché o la mamma è eccessivamente apprensiva? Mediamente ci sono due teorie materne Ma è semplicemente perché uno vuole essere frocio, perché gli piacciono gli uomini o le donne. Questo è il punto, Cruciani, lei ne conosce di omosessuali? Sì, ma come lei probabilmente. Cioè non... Esatto. Nel suo palazzo sicuramente. Dove... anche quando li operiamo. No. Io li vedo anche quando li operiamo, sono delle situazioni disastrate. In che senso, scusi? Soprattutto a livello rettale e anale, io vorrei che la gente vedesse. Ma quello, Cruciani... No, però scusi, in che senso, Michele? Lei le opera a livello rettale e anale cosa nota? Non ho capito. Questo è una cosa secondaria. No, ma è una cosa secondaria. Se lei dice non è secondaria, manco per niente, scusi. Cruciani, se lei chiede in confidenza fuori dalla trasmissione ai suoi amici omosessuali se quando hanno cominciato ad avere questa sensazione di necessità di ricerca del proprio sesso, come l'hanno vissuta? Lei faccia solo questa domanda, non le do io la risposta. Poi voglio essere provocatorio. Sì, no, però Michele già lo è stato. Io ho tre figli. Sì. Quando vedono delle persone come può esserne una, Vladimir Luxuria alla televisione. Che fanno? Loro senza, io non li conosco. Che peraltro non è omosessuale, comunque. Posso dire però. No. Allora che dicono i suoi figli, scusi? No, scusi. Dopo l'alto insegnamento che è omosessuale. Ma non è omosessuale, è un transessuale, là un transgender, come si chiama, insomma. Scusi. Vladimir Luxuria ha il pene? Sì, c'ha il pisello, allora? Bravo. Va con degli uomini? Ma non lo so, andrà con uomini, donne, non mi interessa. Ma che lo sa, lei sa che va con tutti e due. Beh, ma sì, ma magari adesso... Quindi è omosessuale, eterosessuale, bisessuale, trisessuale. Cioè non ha un'identità sessuale. Beh, vabbè, non l'avrà, ma pazienza, avrà tutto. Senti, torniamo al punto. I miei figli mi dicono, papà, ma quello è un uomo. Lei deve dire, è un uomo che si è ormai travestito, vestito da donna e c'ha il pisello, sotto, questo deve dire, il pisello sotto. Dei bambini, quindi non condizionati da me, glielo assicuro, quando vedono la televisione, che dicono? Piccoli, mi dicono, papà, ma lo guardo, papà, ma quello lì è un uomo. Vabbè, dicono è un uomo. Questo è loro come no. Ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Qual è il problema se dicono è un uomo? Scusi, qual è il problema se una persona è iperpesa? Non esiste il problema. Vabbè, un attimo solo, abbiamo la borsa. Michele, lei è un medico, la cosa grave che lei sta dicendo è un medico. E dice che quando lei opera un omosessuale vede delle cose tremende, il retto, ma delle cose allucinanti. Cioè io veramente mi sono tentato a denunciare all'ordine dei medici. La zanzara. Zanzara Party, eccoci qui, Zanzara Party di questa sera, 800 24 00 24, sempre con la splendida musica, la nostra sigla ufficiale o similtale dei Ridillo. Dove eravamo? Ah sì, col medico di Parma, signor Michele, il quale ci doveva dire una cosa però, i figli, non ho capito quei figli, qual è il punto, i suoi figli? No, il punto era per farle riflettere che dei bambini che non hanno nessun condizionamento mentale... Che cosa pensano quando vedono Luxuria in televisione? No. Io non so esattamente cosa pensino, ma il loro commento, io lascio che sviluppino i loro pensieri e li facciano quando hanno l'età per farli. Però mi dicono, papà, ma quello lì è un uomo? E io dico, sì, è un uomo. Non è che dico, entro nel dettaglio, però è un uomo, concettualmente. È un uomo, ma qual è il problema, Michele? Ma non c'è il problema. Senta, Giuseppe, lei è intelligente, non mi faccia queste, ma qual è il problema? Qual è il problema? Ma perché io che ho una figlia di 8 anni non mi pongo questi problemi? Perché? Ha ragione. Di spiegare chissà che cosa. Medico. Quando a un certo punto mi chiederà quello là, io gli chiederò, ci sono persone che si vogliono bene, si amano, anche due donne, due uomini si possono volere bene. Ma no, ma lei mi ha detto che è una malattia. Ma lei mi ha detto che è una malattia, abbia pazienza. Scusi, Cruciani, lei mi fa dire cose che non dico e non è da lei. No. Non riduca questa trasmissione a una semplicità. Lei ha detto che sono malati. Io ho detto che è una malattia. malattia, ma non ho detto che allora vanno eliminati. No, ma chi l'ha detto? Ma mica io l'ho attribuito. No, io l'ho mica attribuito questa cosa qua. Scusi, ma a un diabetico lei lo discrimina? Ma non sono come i diabetici, gli omosessuali. Sono peggio, sono come i paranoidi, sono come i cleptomani. Cioè, un cleptomane è un ragazzo di 20 anni che va nei supermercati alla compulsione a rubare. Non ma dice io ho il diritto di rubare fino a 50 euro, ma non è una persona che io dica non ha diritto a lavorare. Parenzo, pensaci tu, amico Cruciani, mio, guarda, Parenzo, pensaci tu. Dottor Cruciani, scusi, la storia dell'operazione e del retto, com'è la storia dell'operazione del retto, Michele? E quello non glielo dico perché è obbrobrioso, però a me piacerebbe farla vedere. No, ma che vuol dire? Cruciani, che obbrobrioso cosa? Giuseppe, io quando l'ascolto mi sono reso conto che io e lei, parenza è diverso, lei è una delle poche persone, mi permetta di metterla, di avvicinarla al teorico della Lega, come si chiama? No, ma perché mi deve... Aspetti, mi dica il nome. Ma chi? Miglio? Chi? No. Quello che è morto, per carità, no. Quello che è al Parlamento Europeo. No, ma scusi, abbia pazienza, chi è il teorico della Lega? Borghezio, chi è? Borghezio, bravo. No, ma che vuol dire? Scusi, io sono abbastanza... Mi faccia finire. Ma sono molto lontano dal signor Borghezio, Lo so. Però avete una cosa in comune a cui mi sento... E qual è, scusi, no, di grazia, qual è? Quello che pensate, lo sapete dire, e date delle motivazioni di quello che dite, cioè non ragionate come lei ogni tanto fa in trasmissione del tipo no, su, ma tutto è tutto un erbo, un fascio, tutto è uguale. Però, caro Michele da Parma. Allora, a me piacerebbe incontrarla, quando vorrei parlare a quattro occhi di questa cosa, poi se vuole se ne fa, perché è importante. Io le dico, provocatoriamente, uscendo da una scuola di ragazzini di 15 anni, ho 41 anni, ho visto sti ragazzini, brufoli, non brufoli, morosine, cellulari. Vabbè, dico, cose normali. Ecco, ho detto, hanno diritto a sapere una cosa. Cosa? Allora ho detto, bene, io metto in giro per la mia città, non è questa ma adesso abito qua, io metto in giro dei cartelli con un uomo e una donna che hanno dei rapporti sessuali. Mi lasci finire, vado al sodo della situazione. Poi metto due uomini, anche se è un po' diversa la situazione tra due uomini e due donne, però due uomini che hanno dei rapporti sessuali perché si amano. Allora? Io dico che anche se lei lo fa con sua figlia, ma che è sto rumore? Se vede un uomo e una donna, oppure se li vede lei, dice ma potrei essere un po' un guardone, però le viene un sorriso. Se lei vede due, se lei vede un uomo e un uomo che fanno l'amore, istintivamente, e non menta, se lei vede un cartello con due uomini che hanno un rapporto sessuale, istintivamente nota una bella foto gigantografica. Ma non esiste nemmeno un uomo e una donna una foto per strada che fanno. Ma come non esistono? È pieno il mondo di uomini. Ma no, di uomini e donne nudi, no? Ma non di scene di sesso. Ma anche di uomini e donne in rapporti molto intimi. Ma non assolutamente, in giro, pubblicità. Ma non mi pare proprio, guarda. Bravo, pubblicità. Ma non esiste. Anche nelle pubblicità. Vabbè. Allora facciamo così invece, io faccio una foto. Che reazione avrei io? Scusi, che reazione avrei io? Perché lei fa l'amore con sua moglie, eh? Lei fa ancora l'amore con sua moglie? Certo che sì. Quanti anni? Purtroppo abbiamo deciso, non abbiamo più bambini, ma è bellissimo fare l'amore con mia moglie. Ma a parte quello. Da quanti anni è sposato lei? Dieci venerdì. E vado a da dieci anni. E lei ancora? Dopo dieci anni ancora tromba? E trombo me la godo tanto, me la godo più che cinque anni fa. Vede perché lei è intelligente? Perché fa chiudere il mio intervento con un sorriso da parte di tutti e due. Ma che è sto rumore di sottofondo? Chi è? Parenzo? Chi è? No. Che diavolo stai facendo, David? Parenzo che mi tira delle madonne, ma è David. Così Parenzo. David! Non lo senti il campanello? Ah, il campanello che suona, che cazzo è? Infatti me lo chiedevo. No, però a me piacerebbe intervenire su queste cose, perché questa società... Facciamo parlare Parenzo un attimo. Parenzo, allora? Ok. No, questo qui che avete sentito... che poteva sembrare un disturbo, no, in è un disturbo. Il campanello, sì, poteva sembrare in realtà il campanello dell'ospedale, perché annuncia che stanno arrivando degli infermieri e stanno riportando il signore nel suo medico, tra l'altro medico. Vabbè, Michele, ci sentiamo presto, sì. Arrivederci, grazie. Va bene, grazie. Un caro abbraccio a tutti e due, arrivederci. Ciao. Allora, c'è un tizio che pensa di essere spiritoso e mi scrive: caro Cruciani, io di manganellate te ne darei almeno 100 e tutte in quella testa di cazzo da fascista che si ritrova. E adesso vaffanculo fascista di merda, va bene. No, per dire, se questo qua ha intenzione di dare qualche manganellata, la dico alla Esposito, venite pure. Via Monterosa 91, 20149 Milano. Beh, venite, cioè. Il piano non ve lo dico, ma è tanto uguale, Primo piano comunque. Se volete andare invece a acchiappare Parenzo, dovete andare. No, dovete andare. In questo momento potete andare. Potete andare in questo momento a Cortona. No, ma che Cortona? In via dell'Angelo 43, a Cortona. Cortona. Alessandro da Cuneo, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Ascolti un po', prima avete detto che il consumo di cannabis in Italia è in aumento. E non faccio fatica a crederlo, ma se la fuma tutta Parenzo. Bah. Perché non è possibile fare delle affermazioni come fa lui. Ma in Italia c'è una legge, la legge Mancino, che punisce l'istigazione alla violenza. E quando lui augura la morte a un uomo di rispecchiata moralità come Eric Pritz, no, rispecchiata moralità. Adesso Alessandro, sì, io ho contestato Parenzo per questa cosa, ma che lei dica che Pritz, che è un uomo di rispettata la moralità, lei deve andare riccamente a fare in culo, ha capito? Io no? Le dico il perché. Perché è coerente, avrebbe potuto chiedere scusa, avrebbe potuto chiedere 1000 sconti di pena. Ma dai, su. È un prigioniero di guerra. A 100 anni, chi c'ha gli arresti domiciliari? Lei è fascista e nazista. Lei è fascista e nazista. È un criminale. Però il problema è che vissuto, quali criminali lungo, a 100 anni sono i domiciliari? Quali criminali a 100 anni sono i domiciliari? Ma ci sono anche liberi, ce ne sono anche liberi di criminali, Ho vissuto fin troppo a lungo, dai, su. Dove sono? Quelli delle foibe, dove sono? Ma che vuol dire quelli delle foibe? Dove sono quelli che hanno massacrato gli italiani nelle foibe? Dove sono? Sì, ma siamo d'accordo con lei, io sono d'accordo con lei. C'entra. Ma ho capito, però devo dire, ci deve essere una. Ma come sono d'accordo con lei? No, sono d'accordo con lei quando parla di quelli che hanno ammazzato gli italiani nelle foibe. Ma in macchina con il mitico Renato. Ma chi è Renato? No. Vuoi salutare Renato? No, non mi interessa adesso Renato. Chi è? È un ottimo producer. Ma non mi interessa, se era un autista va bene, un producer non mi interessa. Ma che sindaco di Roma? Producer, uno gioca in televisione. No, ma se faceva l'autista mi interessava, il producer mi interessa. Un amico. Va bene, ma non mi interessa. Ma posso, Ercolani, posso essere indifferente a questa cosa? È perché un producer televisivo, ma sono indifferente. Sei stato come al tuo adesso maleducato. Ma non lo so, non lo conosco, ma non mi interessa. Perché lo devi mettere in difficoltà, in imbarazzo? Non lo mettere in imbarazzo. Che stiamo facendo una telefonata adesso. Alessandro da Cuneo, allora, ancora Alessandro, su. Parla piano, certo, dicevo, ma il sindaco, i vari politici, ma si facessero gli affari loro. Un cristiano a 100 anni ha diritto a festeggiare il suo compleanno. Ma anche secondo me ha diritto. E sono delle persone che gli vogliono bene, che gli vogliono fare gli auguri, ma dov'è il problema? No, ma infatti anche secondo me non c'è nessun problema. È Parenzo che solleva problemi inutili su Pripke. No, ma è Parenzo, la comunità ebraica di Roma che mette sempre il becco dove non deve. Ma a parte in Bartino, beh, la comunità ebraica di Roma può dire quello che vuole, senta, ovviamente. È vero. Ma se uno dice qualcosa su di loro, non può più dirlo. Parenzo? Io dico semplicemente una cosa, il signor Pripke non ha nulla da festeggiare, deve ringraziare il signore che ha vissuto 100 anni, perché lui ha potuto farlo a differenza delle persone che ha barbaramente ucciso, è un criminale, ha fatto, e io spero che non arrivi a 100 anni. Posso no, dovrebbe morire nei prossimi giorni, stai praticamente... Non so quando è il suo, ma ha vissuto abbastanza, no? C'è gente che non è arrivata neanche all'età di... Ci sono bambini che sono morti per colpa del signor Pripke, capito? D'accordo, abbiamo capito, sì, ma abbiamo capito, va bene, ma lo sappiamo questo qua. E questo si permette di festeggiare, ma dovrebbe vivere murato in dove vergogna... Alessandro, risponda, su. Dovrebbe sputare in aria mentre sotto l'occhio quando... Per riprendere la responsabilità dell'eccidio delle fosse ardeatine non è dei tedeschi, è dei partigiani che mentre l'esercito tedesco abbandonava la capitale hanno fatto un vile attentato terroristico e sapevano che la legge di guerra tedesca era 10-1. Questa è una vecchia storia. Se il colpevole di quell'attentato si fosse consegnato, è una vecchia storia. Ha obbedito agli ordini. Ha obbedito degli ordini in tempo di guerra, perché il signor Parenzo cosa fa nella sua vita oltre che starnazzare in radio e in televisione? Perché è stato un soldato, ha fatto la guerra, è stato un uomo d'onore. Ma un uomo d'onore, su, dai. Ha il suo paese. Vabbè, ho capito. Obbedisce agli ordini. Ma lei è pure nazista? Lei è pure nazista? No, io non sono nazista perché sono italiano. Fascista, sì, io però. Sono italiano. Fascista, sì. Assolutamente sì. Non è un problema. Però io dico, non si può sempre dire fesserie. L'eccidio, possono prendere le generalità di questa signora? Ma perché le generalità bisogna prendere? Si possono prendere le generalità di questa signora? Ma perché dovresti... Le generalità sono sue che ha istigato la violenza. Perché deve prendere? Le mie. Perché vuoi le generalità di questo qua? Adesso te lo spiego. Io ho semplicemente detto che ogni mattina Pritz dovrebbe alzarsi, sputare in aria e mettere l'occhio sotto lo sputo. Ma perché vuoi le generalità? Fermo! Parenzo, lei non ha detto questo. Lei ha detto che si augura che qualcuno gli faccia la festa per davvero. prendiamo la generalità. Ma perché devi prendere generalità? Non ho capito. Nome, cognome, patente, libretto, forza. Ma perché? Che c'ha? Che c'ha? Prendi le generalità. Ma perché? Che vuoi fare? Perché ha bisogno di essere fascista, prendi le generalità. Ma sì, figurati. E non è il problema. Qual è il problema, scusa? Ha ragione lui. Generalità, forza. Ma non c'è libertà di pensiero in questo paese. Beh no, dipende, se uno... la questione non lo prevede, diciamo, l'istigazione all'odio. Vabbè, abbiamo il traffico, abbiamo il traffico, torniamo subito. La Zanzara. Suona, suona il telefono della Zanzara, suona. Una spina nel fianco, fastidiosa realtà, una macchia nera sul vestito bianco. Suona, suona e nessuno risponde. Va bene, Gennaro da Caserta. No, ma stai zitto e lavora, Gennaro da Caserta, dai. Sì, sì, Giuseppe, buonasera, buonasera. A lei e a David. Sì, no, volevo dire una cosa, no, volevo spendere... Non si capisce niente, Emanuele dalla provincia di Ferrara, dai. Pronto, buonasera. Dica. Niente, è fantastico l'intervento che ci ha detto che dalle 7:30 alle 8 se eravamo in fascia protetta con un pochino di così, collaborazioni col Ministero della Sanità. Perché? Sono diventate chiare alcune affermazioni di Micicchè veramente allucinante. Cioè, non, cioè chi continua a difendere l'operato di qualche attivista politico che continua a guidare carrozzoni pubblici che sprecano soldi, denaro, così. Ma veramente non ha detto questo, eh? Comunque, vabbè. Beh, però alla fine la realtà rimane quella. Ma diciamo che lui ha raccomandato, ha detto: io ho raccomandato un sacco di gente in vita mia, gente che ha bisogno. E poi dopo, alla fine, se raccomandare vuol dire creare delle strutture pubbliche che per la regione Sicilia hanno lo stesso numero di dipendenti del Regno Unito, mi sembra folle. A me lo dice. Non è un problema di a me lo dice, qui essere. C'è un'azienda della Sicilia che ha sprecato 20 milioni di euro per appunto assumere 160 operatori del 118, ma non per farli lavorare, per farli stare a casa, e hanno beccato pure il premio anno di produzione. Cioè la regione Sicilia pagava per non lavorare, ha capito o no? Ha capito folle, o no? Folle. Vabbè, comunque, Emanuele dalla provincia di Ferrara, arrivederci. Mirko da Venezia, da Vicenza, buonasera. Vuoi sapere questo? Che c'è, che c'è, Davide, che c'è? Guarda, volevo fare c'è una cosa bellissima, perché è bello anche chiuso di trasmissione dirlo, perché è poetico. Stiamo andando in macchina verso Tor di Quinto, sì, e leggo su un muro una cosa meravigliosa, 21/10/2011. Sì. È l'inizio di una grande storia d'amore, scritto su un muro. Secondo me dovremmo per ma che cosa strana, cioè sui muri di Roma ogni tanto sì scrivono delle dovremmo frasi d'amore. Una sì rubrica sì anziché sempre un cose nazisti eccetera, in cui si racconta questo paese attraverso le scritte sui muri. Sì. Ah, com'è Mirko, Mirko una com'è cazzata, Mirko da Vicenza. Buonasera, sì, volevo dire rispetto all'idea per i detenuti di produrre energia elettrica in cambio di benefici. Sì. Beh, mi sembra molto triste come idea, perché se facciamo due conti rispetto all'energia che si potrebbe produrre, una persona normale, non so, può sviluppare una potenza di 200 watt, facciamo 5 ore, 5 ore è 1 kilowatt, valore commerciale 17 centesimi. Dunque è disumanizzante una cosa del genere. Mi fa venire in mente certi film dove degli alieni tengono milioni di individui allo stato larvale per produrre energia. Cioè lei sta dicendo che a parte che sarebbe volontaria la cosa, ma comunque insomma pretendere che i detenuti pedalino per produrre energia elettrica e così hanno uno sconto di pena. Ma a me lo dice tempo. Mirko, ho detto dall'inizio che è una cazzata, su, ma giusto in Brasile, in qualche carcere brasiliano possono pensare una cosa del genere, dai, su. Fabio da... Sì, no, ho capito, ma è tutto chiaro. Fabio da Palermo, dai. Sì, sono Cruciani, buonasera. Niente, io chiamavo per fare un po' di polemica con lei, anche perché io è qualche tempo che l'ascolto e io più l'ascolto più mi viene da ridere, ma non perché lei sia un comico, assolutamente. Sì. Ma quando io la sento che si comporta in questa maniera è una cosa terribile, dico subito perché. Sì. Proprio non più tardi di ieri lei ha avuto come ospite il signor Taormina, quella sì. bella persona del... Signor Carlo Taormina, allora qual è il problema? Sì, io lo dico subito qual è il problema. Sì. Il signor Taormina ieri non ha fatto altro che fare i complimenti, che poi conosciamo benissimo il signor Taormina, l'avvocato Taormina, che è l'avvocato del signor Priebke, che è stato l'avvocato di altre persone quest'estate, senza parlare di chi, lo sappiamo benissimo, quindi sappiamo i suoi clienti. C'è innanzitutto, c'è un annuncio, non si sente un cazzo Fabio, c'è un annuncio da parte del professore avvocato Carlo Taormina, apprendo in questo momento che non si terrà la riunione di auguri a Priebke, così la chiama, l'Italia è invivibile. L'Italia è invivibile, sì. Non si può fare ciò che la legge non vieta. E devo dire che su questa cosa Taormina ha ragione, perché io non riesco a capire il motivo per cui ci sono delle persone che vogliono riunirsi a casa di uno che ha 100 anni, un criminale nazista che ha 100 anni, e non lo possono fare perché a persone come Parenzo viene in mente che non si possono riunire delle persone per festeggiare i 100 anni di un criminale nazista. Cioè, ha ragione. È una donata, lo posso ma fare. Ha ragione Taormina, ha ragione Taormina. Scusami, un attimo. Questo. Un attimo! Sì? Sì, buonasera, Donny Toglia? Chi parla? Sì, sono Cruciani, salve, sono Cruciani. Oh, buonasera, sì. Come sta? Sì, grazie a Dio. Beh, senta, lei andrà ai festeggiamenti per i 100 anni di Priebke? Non ci sono. Ah, non ci sono più? No. Oddio, com'è possibile? Li hanno soppressi perché ci sono state delle proteste. Cioè, ma lei si rende conto, Donny Toglia? Io l'ho appena detto, no? Cioè, lei è stato, credo, ancora il consigliere spirituale di Priebke, se non sbaglio, no? Cioè, lei si rende conto che in Italia non si possono festeggiare i 100 anni di una persona liberamente, dei cittadini liberi, non possono andare a casa di una persona a festeggiare i 100 anni perché a qualcuno viene così, no? No, perché a qualcuno girano le scatole, eh? Che possiamo fare? No, ma io lo sostengo questa cosa qua, mi dica la sua, lei che è consigliere spirituale di Priebke. Scusi, ma lei l'ha sentito Priebke in queste ore? Beh, è meglio non parlare di questi argomenti per telefono. Ma no, ma Donny Toglia, perché no? Siamo persone libere, no? Siamo persone libere. Poi quando ci vediamo a quattro occhi ne parliamo tranquillamente. Ma è una vergogna comunque questa cosa qua, secondo lei, il fatto che... Adesso devo andare con Piero, grazie. No, ma che ci sono state delle proteste, è una vergogna. Devo andare adesso, è suonata per Compieta, vado... Che è suonata? Compieta a cantare l'ufficio sacro. Ah sì, scusi, prego, non avevo capito. Buona serata, Don Curzio. Salve, Don Curzio. Salve. Mi sono svegliato questa mattina, sulla mia pancia una bollicina, un'altra ancora sul mio ginocchio e tre persino sopra il mio braccio. Era il consigliere spirituale di Erik Priebke. Caro Parenzo, hai sentito? Ho sentito, prendi i documenti, vedi le generalità. Ma le generalità, sei impazzito questa prendi sera. Prendi i documenti, generalità, arrestatelo subito. Ma quali generalità, ma di che stai parlando? Arresta. Anzi, dico una cosa in chiusura di questa trasmissione, che è la Zanzara, che è molto seguito, ho scoperto anche in questi giorni. Volevo dirti questo, è un peccato che non si faccia più quella donata sediziosa lì, perché sarebbe stata un'ottima occasione questa è buona, per vedere... Per vedere riuniti lì tutti i nazisti e in una botta sola prenderli tutti, in una botta sola. Cioè tu stai dicendo che in questo modo avremmo fatto una bella arretata, Io dico che mi dispiace molto. Ma per quali reati? Scusami, per quali abbiamo reati? Abbiamo perso un'occasione, perché per il genetliaco di quel nazista che ha vissuto sin troppo, avendo vietato la donata sediziosa, abbiamo perso l'occasione per radunare 100 stronzi, perché non si possono chiamare a quest'ora diversamente, e li prende bene, sai come si dice a Roma? Piano. Se li siamo bevuti tutti, capito? Andare lì, boom, una retata, in un colpo solo. Comodissimo, sapevi il luogo, il posto, uno spreco minimo di forze dell'ordine, minimo, c'è un vecchio di 100 anni, tra l'altro manco si muove, benissimo, lì, prenderli tutti. Ma per quali reati? Ma per quali reati? Caricarli su una camionetta, uno a uno, così sulla camionetta, uno a uno. Ecco, vieni. Lei cosa faceva? Qui festeggiava il Pripke. Bene, grazie. Si chiama, prego, salga sulla camionetta. Lei come si chiama? Ah, venuto da Germania a festeggiare il Pripke. Ottimo, grazie, prego, si accomodi. Sale sulla camionetta. Altro signore. Lei dove viene? Ah, mi vengo dal Veneto perché mi piace il nazismo, i fascisti. Bene, ottimo. Come si chiama? Prego, signor Toni, si accomodi, sale sulla camionetta. Così, uno per uno. Poi c'è anche Mauro da Mantova, il tuo amico Mauro da Mantova, sì. Signor Mauro da Mantova, sei uno dei primi a salire sulla camionetta, ma con gentilezza, senza gli schiavettoni, non c'è bisogno. E Donny Toglia? E Donny Toglia? Quello per ultimo, l'estrema unzione, dice, ma dov'è? Devo dir messa? Sì, intanto la dica sulla camionetta, messa, amico mio. Entra, entri pure. Nella camionetta però la dice. Antonello, Milano, buonasera. Capitano, lei dica. Vada. Niente, volevo solo unicamente allacciarmi a quel mio collega che ha prima internato per quanto riguarda la malattia di quattro. Sì, sì, senta, però lei si deve fermare un attimo perché altrimenti non sentiamo un cazzo. Non l'ho capito. Non sentiamo, sentiamo molto disturbata questa telefonata. Comunque, vada avanti, vediamo che possiamo fare. Volevo proprio allacciarmi. Sì, all'intervento del suo collega medico. Sì, niente, che ha perfettamente ragione. Su che cosa, scusi? Sulla quanto riguarda agli stati della pubertà. È una malattia che va guarita per quanto riguarda una situazione. Cioè l'omosessualità va guarita? No, non ho detto questo. Ma come ho no? Detto solo detto... che al momento in cui il bambino dimostra eventuali situazioni di perturbazione, sì, come le perturbazioni, di ridanti, dalla, no, ragazzi, posso dire un'esternità di... E allora che deve diverso. Fare? Niente, deve essere seguito e vedere i familiari perché hanno cioè fare un consulto tra medici, insomma, no? Come? Fare un consulto tra medici. Sì, solo questo, basta, nient'altro. Sì, no, solo questo, per carità. Valerio da Roma, Valerio da Roma, Valerio per concludere, Valerio. Buonasera. Dica. Salve. Niente, un solo rimprovero. Tanto che ormai tutti rimproverano, tutti dicono. Vada, veloce, veloce. Sì, dice un sacco di parolacce. Ma quali parolacce? Dico cazzo qualche volta, non mi rompa le scatole. Non è una parolaccia, le posso fare un trattato su questo. Ci sentiamo domani, 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.